si può fare. Cronache da un paese migliore. Di Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, ultima puntata per quanto riguarda Si può fare in questo orario, poi da lunedì tornerà la Zanzara con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, mentre Si può fare tornerà il buongiorno del weekend di Radio 24, il sabato dalle 7.30 alle 10, la domenica dalle 8.30 alle 11. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, cominciamo subito con i titoli del TG3, Sky TG24. Tempesta di neve sulla costa est americana, ci sono 9 morti, il sindaco De Blasio è newyorkesi, restate a casa. Non sono un mostro, a Sky TG24 parla la madre dei bimbi del Monte Livata, i due piccoli dimessi dall'ospedale. Tragedia a Velletri vicino a Roma, un anziano sbaglia la manovra e con un SUV sfonda la vetrina di una banca, ci sono morto e 4 feriti. Spread sotto quota 200, la prima volta da luglio del 2011, Sacomani soddisfatto, ora più risorse per la crescita. Riforme, Alfano apre a Renzi sulla legge elettorale, ma frena su unioni civili e immigrazione, occorre pensare prima alla famiglia. Il giorno dopo l'acquisizione da parte di Fiat volano le vendite di Chrysler, a Mirafiori operai divisi tra ottimismo e timori. 45esimo compleanno in clinica per Schumacher, ancora in gravi condizioni, sotto le finestre i tifosi con le bandiere Ferrari. Masterchef, la gara entra nel vivo con le prime eliminazioni, ottimi gli ascolti che sfiorano 1 milione di telespettatori. Che c'è una somiglianza molto alla Svizzera, dove io ho vissuto per oltre 40 anni. E le persone sono precise per quando si danno gli appuntamenti e poi c'è una pulizia per le strade molto molto pulita. E questa è una cosa che mi ricorda la mia Svizzera. Non potevamo non partire così con Antonio Razzi, che qualche mese fa di ritorno da una missione ufficiale italiana in Corea del Nord parlava così: mi ricorda la mia Svizzera, sono precisi, sono puntuali, sono ordinati per le strade. Certo, come no, avete sentito la notizia, che poi è tutta da confermare ovviamente, sbranato dai cani il potente zio del leader nordcoreano, che di sicuro è stato fatto fuori, perché lo stesso potente leader nordcoreano a fine anno ha detto abbiamo fatto pulizia nel partito. Poi se è stato davvero, si è assumito questa fine assurda, tragica, questo non ci sono conferme, ma d'altronde in un regime così non potrebbero esserci. Ma non potevamo non farvi risentire, e lo risentiamo, Antonio Razzi, che è questo, un parlamentare della Repubblica Italiana eletto con il Popolo delle Libertà, lo ricorderete, passato nel 2010 dall'Italia dei Valori al PDL durante la crisi di governo eccetera. Questo, sentiamolo sulla Corea di nuovo, Razzi. Apprezzo che c'è una somiglianza molto alla Svizzera, dove io ho vissuto per oltre 40 anni. E le persone sono precise per quando si danno gli appuntamenti e poi c'è una pulizia per le strade molto molto pulita. E questa è una cosa che mi ricorda la mia Svizzera. Oh, però liberi tutti, anche perché sul tema dei diritti civili, dei diritti degli omosessuali, ma anche della riforma dei CIE per quanto riguarda gli immigrati e la legge Bossi-Fini, insomma le proposte di Renzi in tema di diritti civili, liberi tutti, ognuno va per la sua strada. Come sempre su questi argomenti non c'è una maggioranza chiara in Parlamento disposta a votare queste proposte, mentre invece sul tema della riforma elettorale è stato lo stesso Renzi a lasciare liberi i partiti di scegliere una delle tre proposte. Sentiamo le dichiarazioni di oggi di Alfano. Sul sulla famiglia, noi diciamo con chiarezza che non si può pensare alle unioni civili senza pensare alla famiglia. E sulla immigrazione ricordiamo che quelli che si sono cuciti la bocca al centro di Ponte Galeria a Roma erano già con dei conti in sospeso con la giustizia, e uno è stato ripreso di nuovo che aveva danneggiato delle auto. Quindi con la sicurezza degli italiani, quando si parla di immigrazione, non si scherza. Ok sulla tempistica per la legge elettorale, per noi va bene entro fine mese il primo passaggio alla Camera, ci fidiamo che non serva per precipitare il voto. Su famiglia e immigrazione noi diciamo che non sono le nostre priorità. Sentiamo anche chi sentiamo, pure Malan di Forza Italia, sempre sulle proposte di Renzi, poi anche una dichiarazione del Movimento 5 Stelle, sentiamo. Vogliamo una legge elettorale entro marzo, perché il 25 maggio, insieme alle europee, gli italiani possano dire basta alla politica recessiva che il governo si lascia imporre dalla Merkel. No al doppio turno che raddoppia i costi, sì a qualunque modello che garantisca il bipolarismo contro il proliferare dei partitini. La legge elettorale è materia parlamentare, verrà discussa nelle commissioni di appartenenza. Il Movimento 5 Stelle è sempre pronto al dialogo, qualora ci siano delle valide cose sulle quali dialogare. Non dimentichiamoci però che oltre alla legge elettorale, in questo momento il decreto urgente nel quale il Parlamento si deve adoperare è il finanziamento pubblico ai partiti. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. E poi se volete interagire in tempo reale con noi su Twitter, l'account del programma è sipofare24, il mio Ale Maurizi. Ci sono già un po' di commenti sull'SMS al 349-238-6666 a proposito di Razzi. La Svizzera dovrebbe fare una protesta ufficiale nei confronti di Razzi. Beh, in effetti paragonare alla Svizzera, alla Corea del Nord, dove è successo quello che il giornale radio poco fa ci ricordava, cioè sbranato dai cani un dissidente. C'è di che prendersela per quanto riguarda la Svizzera. Perché fate sentire Razzi? Cosa c'entra con la Corea del Nord? Rifacciamoglielo sentire a questo ascoltatore che ci fa la domanda. Perché Razzi, di ritorno da una missione in Corea del Nord, si era fatto questa idea del paese? Sentiamolo. Apprezzo che c'è una somiglianza molto alla Svizzera, dove io ho vissuto per oltre 40 anni. E le persone sono precise per quando si danno gli appuntamenti. E poi c'è una pulizia per le strade molto molto pulita. E questa è una cosa che mi ricorda la mia Svizzera. In che partito è Razzi? Adesso ci chiedono sempre ai messaggi. Allora, se non ha cambiato di nuovo, nel PDL è stato eletto così come senatore nel 2013. Ma bisogna tenerlo d'occhio perché questo è uno che... Liberi tutti 800 24 00 24, dunque, per intervenire in diretta. E anche stasera, forse per l'ultimo giorno sicuramente di questa settimana, vi chiediamo i vostri buoni propositi, poi basta per quest'anno che è appena iniziato. I vostri buoni propositi, cose piccole, cose che riguardano la vostra vita personale, privata, così come si fa con un amico a cui ci si confida il buon proposito: smetto di fumare, voglio far questo, voglio far quest'altro. Potete farlo con noi in diretta davanti a un po' di persone che vi stanno ascoltando, e poi noi durante l'anno vi verremo a ricercare per verificare se siete riusciti a mantenere fede ai vostri impegni. Ma anche cose più grosse, cose che riguardano la vostra città, la vostra comunità, il vostro luogo di lavoro. Insomma, 800 24 00 24, buoni propositi. Oh, il buon proposito del nuovo leader del PD per l'anno prossimo è, oltre alla legge elettorale, anche la riforma di alcune cose che riguardano i diritti civili. Ne parliamo con Ivan Scalfarotto. Buonasera. Buonasera a voi. Deputato del PD, sostenitore da sempre di alcune di queste riforme, che però noi siamo partiti dicendo liberi tutti, non hanno ricevuto una grandissima accoglienza da parte del vostro alleato adesso di governo, per esempio il nuovo centrodestra. C'era da aspettarselo? Forse sì. Sì, ma ci si può anche aspettarselo. Il tema è che questi sono argomenti dei quali in Italia si parla da molti anni, e sono argomenti anche nei quali l'Italia si trova in un ritardo pazzesco. Noi siamo l'unico paese dell'Europa occidentale a non avere ancora una normativa che regolamenti le unioni tra persone omosessuali, uno dei pochi paesi tra le grandi democrazie occidentali, senza contare che anche ormai nel Sud America quasi dappertutto le coppie gay e lesbiche possono addirittura sposarsi. Il fatto che in Italia non si riesca a fare nessun tipo di legge su quello che evidentemente è un'urgenza per tutti, perché se altri politici, come per esempio il presidente Hollande, l'aveva messa nel suo programma e l'ha realizzata subito, e non si capisce perché l'Italia debba restare ferma. Come al solito la politica decide di non decidere, e io penso che questo non sia più sostenibile. È davvero una priorità, secondo lei, con la crisi, con la disoccupazione, con tutto quello che c'è? Per lei mi sembra di sì, Scalfarotto, perché appunto è un sostenitore di questo da tempo, però forse può stupire che Renzi l'abbia messo tra le prime cose da fare insieme alla legge elettorale. Altra cosa di cui si sente in giro spesso dire, per esempio l'hanno detto alcuni del Movimento 5 Stelle o della Lega, andate a parlare con gli artigiani o con la gente che ha perso lavoro di legge elettorale o di diritti civili. Ma guardi, questo è un argomento che a me lascia sempre basito, no? Dire ci sono altre priorità. Non è che ci sono delle cose da fare prima e delle cose da fare dopo, ci sono una serie di cose da fare, vanno fatte tutte insieme, vanno fatte presto però. E allora noi, con la scusa che questa non è una priorità, finora non abbiamo fatto nulla, che è un bel modo, appunto alla fine diventa un bel modo per non fare. C'è un tema che in molti altri paesi, moltissimi altri paesi, praticamente tutti i paesi dell'Europa occidentale, come dicevo prima, è stato risolto, evidentemente era una priorità per loro. Evidentemente sì, oppure era una delle cose da fare e si è fatta. Non è che la politica può fare le cose soltanto una alla volta, ci sono molte cose da fare, vanno fatte tutte insieme, però se cominciamo a dire questa viene prima e questa la rimandiamo tra un anno, tra due anni, il momento per fare quella cosa non arriverà mai. È come Bertoldo che doveva scegliersi l'albero a cui essere impiccato, no? Alla fine evidentemente uno gira tutta la foresta e quest'albero è un po' secco, quest'albero è un po' malaticcio, quest'albero se uno una cosa non la vuole fare, come... non avviene mai. Esatto, io ho l'impressione che questo modo di fare sia un modo per rimandare alle calende greche una questione che va risolta, perché è una questione che va risolta facilmente, come il resto del mondo ci ha insegnato, è una questione sulla quale non perdere tanto tempo. Bisogna riconoscere che esistono nel nostro paese circa 1 milione di coppie non coniugali, eterosessuali e omosessuali, quindi parliamo di grandi numeri, e queste persone necessitano di vedersi riconoscere dei diritti. È una cosa che si può fare rapidamente, non vuol dire non occuparsi di temi dell'economia, di attrarre investimenti dall'estero o di risolvere la crisi economica, significa fare anche questo, farlo subito e bene. Allora, dicevamo, Ivan Scalfarotto, unioni civili, sì, diritti individuali per gli omosessuali o matrimoni, per esempio, come c'è in alcuni paesi. Quale sarà la proposta concreta, stante il fatto che in questo Parlamento, non il vostro alleato adesso di governo, il nuovo centrodestra, ma per esempio il Movimento 5 Stelle, su questo potrebbe fare maggioranza, però dipenderà anche dalla proposta, me lo immagino già, perché se farete una proposta per loro troppo timida sul fronte dei diritti, su cui loro hanno delle posizioni spesso, come definirle, talebane, integraliste, non lo so, dica lei, rischiate di finire di nuovo in minoranza. Qual è la proposta che avete in mente su questo? Ma guardi, io dico da decenni di essere per l'uguaglianza tra le persone, quindi la mia personale proposta sarebbe quella del matrimonio. Tuttavia il partito probabilmente non è ancora lì. D'altro canto Renzi è stato molto chiaro, Renzi ha detto: io penso che si debba fare una legge sulle unioni civili, una legge che preveda sostanzialmente, a parte il nome, una forma di equiparazione di diritti tra le coppie eterosessuali sposate e le coppie omosessuali che vogliono accedere a questo istituto. Renzi ha spiegato bene che questo deve prevedere anche quella che in Gran Bretagna si chiama step child adoption, che è l'adozione del figlio della persona con la quale si conclude l'unione civile. Quindi se una persona entra in unione civile avendo un figlio minore, questo bambino può essere adottato dall'altra persona che sta nell'unione civile. Questa è la proposta di cui Renzi, diciamo, ha parlato durante le primarie, perché Renzi ha portato a casa 2 milioni di voti sulla sua piattaforma. Quella sarà la piattaforma che il Partito Democratico, immagino, porterà e sottoporrà all'alleanza di governo. Quindi sostanzialmente un'uguaglianza, appunto, nei diritti tra coppie eterosessuali sposate e coppie gay o lesbiche che accedano all'unione civile, compresa la possibilità dell'adozione del figlio minore dell'altra parte dell'unione civile, che è quello che è successo in Gran Bretagna e è ancora in vigore in Gran Bretagna in questo momento, in Germania. Però è meno di quello che è stato votato in Francia, che ha la Francia è un paese sicuramente sul fronte dei diritti più compatto spesso e volentieri dell'Italia, che, dove però ha creato una serie di proteste anche lì. Questa proposta è un passo indietro rispetto a quella della Francia, è un po' meno. Francia si è approvato il matrimonio tout court. No, ma sul fronte delle adozioni, sul fronte delle adozioni per le coppie. In Francia c'è il matrimonio punto e basta, cioè ci si può sposare sia che si sia eterosessuali che si sia omosessuali. Però dimentichiamo che in Francia nel 99 sono stati approvati i PACS, quindi non è che in Francia vengono fuori dal nulla. La Francia si è mossa molti anni prima di noi, ha fatto un lavoro di preparazione che da noi non è stato fatto, che è poi lo stesso percorso che ha fatto per la Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna nel 2004-2005 introduce le unioni civili e adesso l'anno prossimo entrano in vigore i matrimoni. Quindi diciamo che noi partiamo da un cammino non fatto. Ora, ripeto, si può tentare, come dire, di forzare, si può anche tentare di portare soluzioni più avanzate, però il rischio in questo momento è di non portare a casa nulla. Sì. Allora io con grande franchezza le dirò questo: io ho 48 anni suonati e sono, diciamo, in una coppia da quasi 10 anni con il mio compagno. Non ho intenzione di arrivare a 80 anni per potermi sposare. Se posso entrare in un'unione civile l'anno prossimo, tra pochi mesi, è come dire, ne sarei molto contento, perché al di là della posizione di principio, che pure è molto importante, ci sono una serie di questioni che vanno risolte. Se io in questo momento dovessi avere un malore, il mio compagno non potrebbe entrare in casa perché dovrebbe chiedere il permesso ai miei genitori. Questo non è una cosa bella, non è una cosa da paese civile, non è una cosa che io da cittadino italiano posso accettare. Allora è vero che altri paesi hanno avuto posizioni, diciamo così, più rotonde, se vuole, più, diciamo, anche più soddisfacenti anche dal mio punto di vista, però riconosciamo, numero uno, che altri paesi hanno fatto un lavoro che noi non abbiamo fatto, e numero due, che quello che è importante in questo momento è portare a casa, secondo me, aspetti sostanziali di diritti che mancano e non impiccarsi a questioni nominalistiche che, ripeto, pur importanti, potrebbero bloccare il processo che porta a casa il risultato. Ecco, ma ripeto, però con quali voti, con chi lo fate questa legge? Non col nuovo centrodestra? Ma io sicuramente no. So che in questo momento quello che si dovrà fare è un patto di governo per il 2014. E il Partito Democratico porta a quel tavolo una proposta che è quella che io le ho descritto, sì, cioè quella delle mie. Però oggi Alfano ha detto che su questo non mi sembra che c'è una grossa apertura. Beh, Alfano si assume le sue responsabilità, certo, nel senso che se Alfano ritiene che la coalizione di governo possa fibrillare su un argomento nel quale l'Italia è in ritardo di 20 anni rispetto agli altri paesi del mondo occidentale, se ne assume le responsabilità. Io vorrei ricordare che dal 2010 la Corte Costituzionale chiede al Parlamento italiano di legiferare su questo argomento. Nel 2011 la Corte di Cassazione ha detto che le unioni omosessuali hanno la stessa dignità delle famiglie eterosessuali, la Corte di Cassazione. Scalfarotto, diciamolo che su questo sarebbe più logico che foste al governo con il Movimento 5 Stelle, su questi argomenti qua, perché avreste un'autostrada davanti, no? per fare guardi, le riforme più incisive. Questo lo dico al Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si fa, come dire, se voleva fare un governo col Partito Democratico. No, ma anche solo un'intesa parlamentare su una di queste leggi. Ma il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che loro, su proposte di legge che li convincono, votano. Quindi quando questa legge arriverà in Parlamento, il Movimento 5 Stelle potrà votare. Del resto, segnalo che la legge sull'omofobia, che il Movimento 5 Stelle ha molto contestato, ecco, il Movimento 5 Stelle si è astenuto su quel provvedimento, lei sa che l'astensione alla Camera vale lo considera già un passo avanti. A proposito, questa legge adesso dov'è? È al Senato? La legge al Senato ha finito il suo iter nella Commissione Giustizia del Senato, quindi è attesa dall'Aula nel mese di gennaio, quindi nei prossimi giorni. Ma che effetto le ha fatto queste manifestazioni che ci sono state chiamate le sentinelle, non so di che cosa esattamente, ma così con questo termine, prima delle vacanze di Natale, insomma attorno a metà dicembre in alcune città, tra cui anche la mia, Milano, persone che si sono ritrovate per prendere posizione contro per l'ennesima volta questa proposta di legge, questa legge che è in discussione al Senato sull'omofobia, dicendo addirittura che se io dico che preferisco il matrimonio tra uomo e donna anziché tra due persone dello stesso sesso, rischio un anno e mezzo di carcere. Guardi, io mi sono molto anche un po' divertito, perché in realtà tante volte pare che le persone che commentano le leggi, le proposte di legge, non le abbiano lette, poiché nella legge che abbiamo approvato alla Camera c'è precisamente detto, proprio nero su bianco in italiano, che sono fatte salve le manifestazioni del pensiero riconducibili al pluralismo delle idee, cioè c'è proprio scritto, e anzi questa norma è stata una delle questioni che ha fatto sì che il movimento omosessuale italiano non si sia detto soddisfatto di quella legge. Quindi abbiamo il paradosso che gli omosessuali, diciamo il movimento omosessuale, il movimento gay e lesbico italiano, dice che la legge non è sufficiente perché fa dire troppo. Le sentinelle dicono che la legge è una scontentate legge tutti, Scalfarotto, è quello che dicevo io prima, cioè per volere trovare l'intesa con qualcuno scontentate tutti. È il destino del PD. Io penso che basterebbe leggere, perché, ripeto, poiché nella legge c'è scritto che le libere manifestazioni del pensiero non sono punibili, le faccio un esempio, perché questa legge si applica anche ad altre forme di discriminazione ed è già in vigore la legge Mancino, noi non abbiamo fatto altro che estendere la legge Mancino reale anche all'omofobia e alla transfobia, ma una legge che già vige per il razzismo. Ora non mi risulta che nessuno sia mai stato incarcerato o inquisito avendo detto di essere contrario allo ius soli, eppure la legge è in vigore e questo non è mai successo. Allora, una cosa è dire io sono contrario al matrimonio tra due uomini e tra due donne, oppure sono contrario allo ius soli. Un'altra cosa è invece esprimere opinioni discriminatorie che incitino all'odio o alla violenza, sia nei confronti di persone di altra etnia o di altra nazionalità che di persone di diverso orientamento sessuale. Allora lì non siamo più nella libera espressione delle idee, siamo in qualcosa di diverso. Ma finché qualcuno vorrà dire di essere contrario al matrimonio tra due uomini e tra due donne o di essere contrario allo ius soli, non solo lo può fare, ma lo deve poter fare, perché l'articolo 21 della Costituzione, che è superiore a qualsiasi legge che il Parlamento possa approvare, garantisce la libera manifestazione del pensiero nel nostro paese. Quindi consiglierei alle sentinelle di, come dire, utilizzare il proprio tempo per esercizi più utili. Senta, a proposito invece dell'ultima questione, quella relativamente all'immigrazione, alla Bossi-Fini, togliere la Bossi-Fini e al suo posto mettere che cosa? Anche su questo Alfano oggi ha detto attenzione a incidere su questi temi che toccano la sicurezza delle persone, perché su questo non siamo d'accordo, sempre Alfano oggi. Noi dobbiamo fare una politica dell'immigrazione molto seria e che non sia criminalizzante. Cioè, il problema è che noi abbiamo introdotto nel nostro ordinamento un reato, il reato di clandestinità, che è un reato che non è legato al fare qualcosa, ma è legato all'essere qualcosa. Questo è un obbrobrio giuridico, è una specie di mostro giuridico. Una cosa del genere non va bene. Non va bene che chi porga aiuto a un barcone in difficoltà in mezzo al mare sia considerato qualcuno che sta violando la legge sull'immigrazione. Cioè, noi non possiamo pensare che chi va a salvare il naufrago a Lampedusa per quello stia, come dire, infrangendo la legge, perché è un dovere di solidarietà e di umanità che dovrebbe essere assolutamente elementare. Allora il problema è che poi noi che cosa facciamo? Riempiamo le nostre carceri di persone, magari perché abbiamo una legislazione assurda sulle droghe, abbiamo una legislazione assurda sull'immigrazione, e poi veniamo fuori con proposte di amnistia o di indulto, che poi si capiscono, perché poi evidentemente la situazione delle nostre carceri è assurda, ma sono pannicelli caldi che arrivano sempre come quando si chiude la stalla dopo che i buoi sono scappati. Avrebbe molto più senso avere una legislazione, appunto, che non criminalizzi comportamenti che non sono da criminalizzare, sono al limite da curare o da gestire dal punto di vista organizzativo anche dal nostro paese, ovviamente nel quadro europeo, e avere anche una situazione carceraria che poi non scoppi e non ci esponga al pubblico ludibrio, alla pubblica vergogna internazionale. Noi siamo stati condannati dalla Corte di Giustizia Europea perché in Italia ogni detenuto ha circa 3 metri quadrati di spazio, quando l'Unione Europea dice che un maiale adulto in un allevamento deve avere almeno 6 metri di spazio. Questa è la situazione delle carceri italiane. Va bene, grazie Iva Scalfarotto, auguri, grazie e buona serata. Grazie a voi. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24. Lasciamoci alle spalle l'intervista a Scalfarotto e sentiamo i vostri interventi, cari ascoltatori. Cominciamo con Silvio, che ci chiama dalla provincia di Cuneo. Buonasera. Buonasera a voi. Io ho sentito anche il nostro politico, ma quando è che facciamo qualche iniezione di fiducia nel popolo italiano? Io come? Sì. Un po' di iniezione di fiducia, un po' di ottimismo, se no qua, ragazzi, ci andiamo a impiccare tutti senza che qualcuno ci cerga l'albero. Però non ho capito che c'entra Scalfarotto con la fiducia. Non le ha dato fiducia, non le ha dato fiducia o le ha dato fiducia? No. Ma è proprio un andazzo che hanno i politici. Cioè, io sono un imprenditore, io faccio il cioccolatiere. Sì. E noi abbiamo bisogno di ottimismo, perché se le imprese non hanno ottimismo, cioè la legge sui problemi delle famiglie sono leggi importanti. Io lo so, perché sono 27 anni che sono sposato, capisco tutti i problemi che possono avere, ma io direi che in questo momento sarebbe bello che loro si impegnassero bene a risolvere i due problemi, stabilità di governo e poi economia impresa, perché che una coppia sia omosessuale o eterosessuale, sposata o no, se non ha lavoro è fregata in partenza. Ah, questo comunque, sicuramente. Però mi scusi, a proposito di iniezione di ottimismo e di fiducia, certamente per chi è toccato da questa vicenda, per chi è omosessuale, per chi vive in una coppia e non è riconosciuta, questa promessa è un'iniezione di fiducia. Ce n'è tra fare. E tra l'altro è un numero sempre crescente di persone, ricordiamocelo. Diciamo anche che però ci sono delle priorità che sono date dalla democrazia, che sono i grandi numeri. Quindi è vero, si impegnino pure su quello, ma non buttino all'ortica un cambiamento strutturale in cambio di alcune cosine che possono essere viste poi certo, in cambio da un Parlamento più forte, no? Ma perché lei dice in cambio di? Non c'è un cambio, no, qua, ma io cambio non merci. So. Mm. Con questo governo un po' così, attaccato con forse. Vabbè Silvio, ma lei voleva commentare solo Scalfarotto o voleva dire anche qualcos'altro? No, io volevo dire quello che era il mio impegno per quest'anno. Bravo. La mia presenza di quest'anno. Sentiamo. Allora, è quello di arrivare a 20 collaboratori e raddoppiare il mio fatturato di esportazione all'estero. Credo che questo possa portare tutti. Noi, scusi, ma lei è abbastanza ambizioso, vuole raddoppiare il fatturato all'estero? Noi sono 3 anni che raddoppiamo il fatturato in senso generale. Siamo passati da 4 collaboratori nel 2010 a 16 collaboratori oggi, e potremo arrivare a 20-22. Abbiamo bisogno proprio di focalizzare questo, l'impegno deve essere nostro, abbiamo bisogno solo un po' di ottimismo che non ci faccia perdere quello che abbiamo nel nostro profondo, che l'imprenditore deve essere un ottimista. Guardi, se non è un ottimista deve fare altro. Bravo, no? Io ho preso appunti sul suo buon proposito e sarà uno di quelli sicuramente che verremo a verificare, però l'ultima cosa voglio chiedere, di cosa si occupa la sua azienda, lei in che settore? Io sono un cioccolatiere. Ah, scusi, aveva detto cioccolatiere. Sì. Mio nonno quando ero piccolo mi ha detto: Silvio, da grande, se puoi, cerca di diventare il cioccolatiere, e per diventarlo bisogna fare soprattutto due cose: quello che gli altri non fanno più e quello che gli altri non fanno ancora. Questo sarebbe un motto che servirebbe a tutte le persone che oggi si trovano in un momento di crisi e non sanno cosa e come fare, di ritornare a guardare nel passato e se ne hanno le capacità di proiettarsi nel futuro, perché comunque, tornando indietro alle origini, quindi producendo il cioccolato dalle origini, noi oggi abbiamo raddoppiato il fatturato tutti gli anni, quindi sono 3 anni che raddoppiamo, quindi sta diventando interessante la cosa, ma soprattutto abbiamo sbaragliato la concorrenza, che pensa sempre al minimo, no? Cioè, galleggiare, no, noi non stiamo galleggiando, stiamo progettando il futuro con il cioccolato del futuro, quindi stamattina sulla stampa c'è un però articolo. Lei mi scusi, a questo punto ci dica qualcosa in più, perché lì vicino a Cuneo, da dove chiama lei, non c'è la Ferrero da quelle parti, non è che lei... Sì, mio collega. Il suo collega, alla faccia del collega. Beh, guardi che in Ecuador i due più grandi compratori di cacao siamo io e Ferrero, quindi voglio dire, non è che ce la discutiamo male, anche se la mia è un'azienda piccola. A livello di dimensioni. Ma scusi, ma allora ci dica il nome dell'azienda, via questo punto. Io sono Silvio Bessone, sono un cioccolatiere, adesso abbiamo aperto a Torino una nuova attività, abbiamo 29 negozi in Giappone, adesso apriremo negli Stati Uniti senza aiuti di nessuno, senza che nessuno faccia cocodè per noi, semplicemente cercando di promuovere questa vitalità e questa originalità. Ma stiamo andando sul biodinamico, sulle coltivazioni naturali delle nocciole. Avete una tradizione, Bessone, da quelle parti, perché no, c'è Briatore. Mio papà faceva l'elettricista. Sì. No, ma quindi, una tradizione di uno spirito imprenditoriale, probabilmente. Beh, certo, questo ma cosa ci vuole? Guardi che nel 2004, quando c'è stato lo tsunami in Sri Lanka, invece di guardare... 2006 forse, 2006. No, 2004. 2004? 24, sì. 26 dicembre 2004. Sì. Invece di pensare solo a mandare un SMS, è stata una cosa grandiosa. Io ho progettato un centro di recupero del cacao in Sri Lanka e nel 2007 l'abbiamo aperto. Oggi importiamo cacao biologico dallo Sri Lanka grazie a un passo di ottimismo. Quindi vede che noi possiamo essere ottimisti per vedere l'estero e la globalizzazione, mandando all'estero quelle che sono le nostre, i nostri attu, i nostri plus di grande qualità. Guardi, io starei ad ascoltarla, starei qua ad ascoltarla per ore col suo entusiasmo. Un'ultima cosa però me la deve dire: dato che tra le novità di inizio anno di cui si parla c'è anche questa proposta ennesima di riforma del lavoro, si torna a parlare di cambiare, che so, l'articolo 18, fare un contratto unico, eccetera eccetera, queste cose incidono sul fare azienda? Guardi, per un'impresa oppure non servono un tubo e sono solo chiacchiere? Allora, il problema grosso è che le leggi a tutela proteggono solo i fannulloni, perché gli altri si proteggono da soli. Io questa settimana ho 18 collaboratori, li ho veramente ringraziati tutti perché ci hanno consentito di poter ottenere dei risultati. Ho avuto dei collaboratori che domenica, senza dirglielo, sono venuti a lavorare perché dovevamo far spedire i container per il Giappone. Devo dire, i collaboratori sono il primo patrimonio di un'azienda. Quindi? Io però 2 anni fa ho fatto una fatica incredibile a licenziare una signora che era contro tutte le logiche della produzione, aveva solo un prodome a propria. Io avrei chiuso l'azienda pur di mandar via quella signora lì, perché rovinava lo spirito di tutti i ragazzi. I miei collaboratori si sono schierati contro, perché lei veramente creava un grosso problema. Tutelare i pelandroni sarà il più grande dei limiti che ha avuto il sindacato negli ultimi 20 anni, e adesso lo stanno pagando, perché per tutelare un piccolo numero di fannulloni cosa ha fatto? Ha messo in ginocchio tutta un esercito di ragazzi bravissimi che si trovano ad avere occupazioni temporanee perché le imprese hanno paura. Io va bene. Adesso non volevo aprire questo capitolo. Grazie, Bessone. Tra l'altro le dico che ci sono già un po' di ascoltatori che si candidano per essere suoi collaboratori da quelle parti. Io sono felicissimo perché ieri abbiamo incontrato un ragazzo nuovo nel negozio di Torino. Sono andato adesso a vedere, mi dice con entusiasmo: fa, grazie, è stato il più bel regalo del 2014. Questo è la cosa più importante, dare ottimismo. 2 ragazzini giovani, 21 e 23 anni, che le loro fidanzate sono rimaste incinta quest'anno nel 2013, hanno tenuto i bambini, sono rimasti lì perché avevano fiducia nell'impresa in cui lavoravano. Bravo Mirko, bravo Marcello, perché grazie anche al mio entusiasmo oggi hanno 2 famiglie splendide e affronteranno un anno anche loro come ottimista. Non si ferma mai. Dicono altri ascoltatori che lei è ottimista perché mangia il cioccolato. Allora ce le mandi un po' anche a noi, così saremo ottimisti anche noi. Io sono ottimista. Grazie. Perché lavoro 21 ore al giorno. Auguri. Solo 7 giorni alla settimana. Auguri, Bessone, grazie per questa telefonata. Ciao a tutti. Cioè, non è che l'abbiamo fatta apposta, ha chiamato lui, è straordinario. Comunque questo ascoltatore, che è anche un grande industriale del cioccolato, che ha fatto il suo buon proposito per questo anno qui davanti a tutti voi, ascoltatori, e allora noi tra qualche mese andiamo a vedere se questi 16 collaboratori sono diventati davvero 20, magari a avercene notizie così. Andrea da Firenze, buonasera. Sì, buonasera a voi e buon 2014 a tutti. Prego. Allora, il buon proposito personale, mi sono ripromesso appunto di aiutare le persone che conosco ovviamente, e anche quelle che non conosco attraverso conversazioni, ad approfondire l'informazione che a mio parere in Italia ancora scarseggia. Cioè lei intende informazioni nel senso i giornali, quello che riportano i siti di notizie, queste cose qua? Sì, aiutare queste persone a ricercare le notizie, perché la mia impressione è che in Italia ancora, fra virgolette, siamo costretti ad andare a ricercare le notizie, se vogliamo seguire il filone della notizia stessa. C'è troppa. Ma in che senso, scusi Andrea, c'è una grande offerta, ci sono giornali, ci sono telegiornali, siti, blog, c'è di tutto, basta andare online. In che senso aiutare le persone? Cioè motivarle perché è giusto essere informati oppure andare a cercare le fonti giuste? Non ho capito qual è la sua preoccupazione. Ambedue, perché purtroppo ancora, essendo l'Italia una popolazione abbastanza in là con gli anni, moltissime persone non hanno accesso a degli strumenti di informazione che mi pare siano... Ma lei questa cosa come la fa? Cioè com'è? Fa dei seminari a casa sua, chiama i suoi amici e dà indicazioni? Com'è che riesce ad aiutare le persone? Non l'ho pianificata nei minimi termini, ma sicuramente parlandone. Cioè è un'idea che le frulla per la testa, adesso lei quest'anno che viene, quando parlerà con i suoi amici, con le persone che incontra, terrà questa cosa a mente e sarà uno dei suoi obiettivi. Va bene, grazie Andrea, auguri anche a lei. Allora, come sapete, la sera del 31 dicembre Giorgio Napolitano nel suo discorso ha letto ha riferito di alcune lettere che ha ricevuto da parte di persone, disoccupati, precari, studenti, che insomma lo avevano interpellato per chiedergli un po' sostegno, aiuto, per avere risposta alle proprie domande di fronte insomma ai punti di caduta, alle inefficienze del sistema soprattutto economico italiano. Allora, il giorno dopo, tra le persone diciamo così deluse per non avere per il fatto che la loro lettera non è stata citata dal capo dello Stato, c'è una persona che abbiamo chiamato, si chiama Tiziana Marrone. Buonasera Tiziana. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Lei è vedova di Giuseppe Campaniello, che era un artigiano morto nel 2012 dopo essersi dato fuoco davanti alla sede della commissione tributaria di Bologna. Sì. Da allora lei ha cercato di fare in modo che insomma la morte di suo marito non fosse avvenuta in vano e ha cominciato a impegnarsi perché si riformassero queste leggi, perché cambiasse Equitalia, perché ci fosse meno rigore sugli imprenditori in difficoltà che non riescono a pagare una cartella esattoriale. Lei, tra le cose che ha fatto, ha scritto anche a Napolitano. Quando è che gli aveva scritto? Allora, io l'ho scritta la lettera il 21 marzo del 2013. E quindi quest'anno. Lei poi ha ascoltato il discorso del capo dello Stato? No. A me è stato riferito quello che ha detto, io mi ero imposta di non ascoltare. Si era imposta di non ascoltarlo, perché? Perché comunque, visto e considerato che un capo di Stato non trova 5 secondi di tempo per rispondere, allora io credo che non fosse opportuno che io ascoltassi il suo discorso, anche perché lui ha ignorato me come cittadino e io ignoro lui come capo di Stato. Tra l'altro, certo, la sua non è una vicenda che sia passata inosservata, una vicenda grossa, insomma, è stata sulle cronache dei giornali per molto tempo. Cosa aveva scritto lei in questa lettera Napolitano? Aveva fatto qualche richiesta? Io ho fatto la richiesta di comunque di avere un occhio sulle persone che comunque stanno comunque ancora pensando di suicidarsi, e un occhio anche a chi rimane, perché chi rimane è non solo l'unica. Io ci tengo a precisare che io non sto facendo tutto questo per me personalmente, io non voglio corsie preferenziali, non fa parte del mio carattere. Io sto facendo questo per tutte le persone che come me sono rimaste sole e senza lavoro, e penso anche a quelle vedove che hanno dei figli minori a cui badare, sono messe ancora peggio di me, e io a queste persone penso. Non sono l'unica persona in Italia ad essere messa così, siamo troppe persone e c'è troppa indifferenza da parte dello Stato, e questa è la cosa che fa male. La non risposta del capo dello Stato fa male, perché proprio è sinonimo di indifferenza, praticamente della serie, ma chi se ne frega, cioè il problema è tuo. La risposta, il suo silenzio dice questo, e fa male. Senta, ci vuole ricordare però, lei dice giustamente non voglio niente per me, voglio però portare attenzione sulla realtà, che si parli delle persone che soffrono come ha sofferto lei, ma come ha sofferto soprattutto suo marito. La vicenda, ce la vuole ricordare in qualche parola, come mai suo marito... Allora, mio marito aveva un debito con Equitalia abbastanza alto, ma non perché il debito iniziale fosse alto, con il passare degli anni si è quintuplicato, io non so di quanto, so soltanto che lui fece 3 ricorsi, i ricorsi erano stati bocciati, ma non voglio entrare neanche in merito a questo, perché ci sta lavorando l'avvocato, però mio marito aveva questo debito abbastanza alto. Molto probabilmente Giuseppe quel debito voleva pagarlo, ma siccome Giuseppe Campagnello appunto si chiamava Campagnello e non aveva un nome illustre, non gli è stato fatto né nessuno sconto e non gli è stato fatto nessun tra virgolette favore, non perché dovessero fare un favore a mio marito, però visto e considerato che crisi c'è, non si lavorava tantissimo perché poi Giuseppe è rimasto a casa anche perché non è stato molto bene. Il lavoro non c'era e quindi Giuseppe purtroppo non è riuscito a pagare questo debito. Il debito non era di 6.000 euro o di 50.000 euro, era ben superiore ai 200.000 euro, ma perché comunque... Però lei dice che era cresciuto nel corso degli anni per via di... Era cresciuto in modo smisurato perché le sanzioni, le multe, le more, io non so che cosa applicano su queste cartelle esattoriali, e questa è la cosa che fa paura. Nessuno dello Stato, nessun politico è riuscito a fare qualche riforma riguardo a questa situazione. La gente continua a suicidarsi, che dietro ogni suicidio, se andiamo a vedere, c'è o la crisi o una cartella di Equitalia. Allora, senta, però sì. Mi dica, scusi. No, siccome insomma, il programma si chiama Si può fare, noi siamo degli, non dico ottimisti, però cerchiamo di guardare con positività, se possibile, laddove ci è consentito. Un po' di cose sono cambiate però in questo periodo, in questo anno e mezzo. Ci sono state delle riforme, per esempio per quanto riguarda molti comuni hanno abbandonato Equitalia, per esempio per quanto riguarda la riscossione di queste cartelle esattoriali. L'ultimo qualche giorno fa un comune grosso come Firenze, il decreto del fare prevede forme di rateizzazione più lunga per chi ha dei debiti eccetera. Lei almeno questo lo vede un po' come una vittoria di chi come lei in questi anni, dopo una vicenda drammatica, assurda, come quella che ha vissuto lei, però forse adesso è anche merito vostro, no? Non lo so di chi è il merito, però io posso dire una cosa, le 120 rate, diciamo, di Equitalia, questa riforma non è sufficiente, perché... Io, per esempio, il mio caso... come Sì, chiariamo una cosa per chi magari non lo ricordasse. Cioè, appunto, una delle cose che è stata cambiata è portare fino a 120, credo, a 72 rate iniziali. Quindi, diciamo, 120. Poter... Ecco, esatto, dilazionare quasi il doppio rispetto a prima, che è un aiuto, appunto, per chi ha dei debiti. E dice, questo non basta. Non basta, perché io oggi sono senza un lavoro. Io oggi sono senza un lavoro. Io percepisco 490 euro di reversibilità di mio marito. Io vivo in una città come Bologna, ok? Con 120 rate a disposizione mi può far comodo avendo un lavoro, ma se non ho un lavoro io faccio la fine di mio marito, lo dico, perché comunque lo Stato comunque ti vessa, quei soldi li vuole, ti prende tutto quel poco che ho, perché io non ho tantissimo, io ho un appartamento comprato con il lavoro di tanti anni d'Australia, di sacrifici dei miei genitori e di Giuseppe, di mio marito, quindi è una macchina, questo non ho nient'altro. Toglietemi la casa, toglietemi la macchina e mi avete tolto la vita, quindi non mi rimane che fare lo stesso gesto di mio marito. Io non condivido il suicidio, assolutamente non sto incitando al suicidio, me ne guardo bene perché io sto passando le pene dell'inferno, però quello che io vorrei far capire allo Stato, perché le persone di coscienza, la gente comune come me, la povera gente, sa quello che voglio dire. Il mio messaggio arriva sempre, perché sanno che io non istigo al suicidio. Ecco, senta, a proposito di questo, insomma, del messaggio che lei cerca di dare, perché per esempio sono nati dei movimenti, delle associazioni anti-Equitalia, a difesa degli imprenditori, tante cose. Anche lei a un certo punto sembrava che fosse, che dovesse costruire addirittura un partito, eccetera. No, no, no, io non ho mai parlato di questo. Io volevo fare un'associazione, sì, e ci sto lavorando. Questo sì, ma un'associazione politica partitica, assolutamente. Non mi sono mai, non ho mai avuto il pensiero di mettermi in politica, anche perché francamente non ne sarei in grado, quindi non mi ci metterei neanche, no, assolutamente no. L'associazione sì, ci stiamo lavorando e arriverà anche quello, piano piano arriverà anche quello. Però il mio messaggio è quello di chiedere agli imprenditori, agli artigiani, ai commercianti, ai disoccupati di non fare un gesto estremo, perché comunque quello che si lascia è altrettanto tragico, è tragico, è bruttissimo. Si vive in un torpore, si vive in un... non so, io non so neanche spiegare in che cosa si vive, perché il vivere il... come si dice? Io non so, adesso non so neanche esprimermi. Vivere con questo dolore di un marito suicida non è la stessa cosa di un marito che è morto di malattia o un incidente. È bruttissimo lo stesso, assolutamente, perché ogni morte ha... Però sapere che un uomo si suicida perché uno Stato lo vessa è ancora peggio. C'è tanta rabbia, credetemi, c'è tanta rabbia, perché siamo impotenti, perché abbiamo uno Stato che non ci ascolta. Questo è. Abbiamo uno abbiamo dei politici con la P minuscola. E questo però è un altro refrain. Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati da Alessio Maurizi insieme a Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, redazione, Pietro La Corte in regia. 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi, i vostri buoni propositi per il 2014. Adesso abbiamo i titoli del TG3. Alfano a Renzi, sia la riforma elettorale ma prima delle unioni civili pensare alle famiglie. Santanchè, Angelino, torna da noi. Il PD, cercheremo accordo in Parlamento, domani la segreteria del partito a Firenze. I 5 Stelle no a ricatti sulla legge elettorale, Gian Russo ospite del TG3. Spread di nuovo sotto quota 200, non succedeva da luglio 2011, dopo tanti sacrifici Italia più credibile, Saccomanni adesso più risorse per la crescita. Fiat Chrysler dopo l'accordo paura e speranze tra i dipendenti italiani, il governo vigileremo, volano le vendite USA. Bisogna formare il cuore, altrimenti formiamo mostri, dice Papa Francesco. No al reclutamento delle vocazioni, alla tratta delle novizie. Sempre critiche le condizioni di Schumacher, che compie oggi 45 anni. Decine di tifosi arrivano a Grenoble per fargli gli auguri, lui e la storia della Ferrari. Il 3 gennaio 1954 la RAI inaugurava ufficialmente le trasmissioni televisive, dando il via ad una vera rivoluzione culturale. Che c'è una somiglianza molto alla Svizzera, dove io ho vissuto per oltre 40 anni. E le persone sono precise per quando si danno gli appuntamenti e poi c'è una pulizia per le strade molto molto pulita, e questa è una cosa che mi ricorda la mia Svizzera. Cioè, sentite così le dichiarazioni di Antonio Razzi, onorevole senatore della Repubblica Italiana, sono sulla Corea del Nord come la Svizzera, di ritorno da una missione in Corea del Nord 2 o 3 mesi fa, sono sicuramente molto molto meglio dell'imitazione che ne fa Crozza, perché nel giorno in cui si scopre che lo zio del leader nordcoreano è stato mangiato dai cani, lo hanno eliminato così, notizia presunta ma molto probabilmente fondata, risentire queste dichiarazioni di qualche mese fa, credo che fosse la fine di agosto, di ritorno da una missione in Corea del Nord, ad Antonio Razzi la Corea era sembrata così, risentiamolo. Apprezzo che c'è una somiglianza molto alla Svizzera, dove io ho vissuto per oltre 40 anni. E le persone sono precise per quando si danno gli appuntamenti e poi c'è una pulizia per le strade molto molto pulite, e questa è una cosa che mi ricorda la mia Svizzera. Liberi tutti, dice Ivan Scalfarotto, che secondo lui sicuramente, l'esponente del PD, che sicuramente quando tra qualche giorno verrà fatto il patto di rilancio del governo Letta-Alfano, una legge sulle unioni civili entrerà in questo patto, una legge magari non forte, non fortissima, non i matrimoni, insomma una cosa in grado di non turbare troppo la voglia di famiglia del nuovo centrodestra, però ci sarà. Sentiamo Alfano che a parole la vede un po' diversamente. Sulla famiglia noi diciamo con chiarezza che non si può pensare alle unioni civili senza pensare alla famiglia, e sulla immigrazione ricordiamo che quelli che si sono cuciti la bocca al centro di Ponte Galeria a Roma erano già con dei conti in sospeso con la giustizia, e uno è stato ripreso di nuovo che aveva danneggiato delle auto. Quindi con la sicurezza degli italiani quando si parla di immigrazione non si scherza. Ok sulla tempistica per la legge elettorale, per noi va bene entro fine mese il primo passaggio alla Camera, ci fidiamo che non serva per precipitare il voto. Su famiglia e immigrazione noi diciamo che non sono le nostre priorità. .000 24 00 24. Adesso però parliamo del caso scoppiato all'Unità, il giornale fondato da Antonio Gramsci, il giornale fu del Partito Comunista, adesso fiancheggiatore del Partito Democratico, nel cui azionariato è entrato un soggetto sgradito ai giornalisti della stessa Unità. Si tratta di una ex senatrice di Forza Italia, noi l'abbiamo convocata qua questa sera, l'oggetto, il soggetto della discordia, Maria Claudia Ioannucci, buonasera. Buonasera a voi. Allora, intanto le vorrei chiedere, lei che nella vita è professore di diritto amministrativo comunitario all'Università dell'Aquila, però fa anche l'imprenditrice nella vita? Sì, ho ereditato alcune società, sì, di mio padre, ma faccio anche l'avvocato soprattutto. Quindi questa quota che lei detiene fa capo a sé o fa capo a qualcun altro? Cioè lei è rappresentante di qualcun altro come avvocato, per esempio, cose che capitano? No, assolutamente, tutto molto trasparente. Sì, però lei non ha altre partecipazioni in altre società, o sì? Io sì, ho partecipazioni in altre società, sì. Ah no, era giusto per capire se ha proprio un interesse rispetto all'Unità o se lei nelle sue variate attività imprenditoriali inserisce anche questa. Che quota lei ha della... Dunque, intanto chiariamo, la sua la società si chiama PEI. Sì. E lei di questa società è socia o è titolare unica? Praticamente le quote le avevo intestate momentaneamente al mio ex marito, però sì, semplicemente perché non era una società uninominale, adesso la sto trasformando in società uninominale, quindi sono le mie. Ok, senta, per caso lei viva voce o all'auricolare qualcosa del genere, perché se è possibile toglierlo che la sentiremmo ancora meglio. Ecco, perfetto, sì, perfetto, grazie. E invece la società che edita il quotidiano, l'Unità, è la NIE. Certo, sì, sì. Mm. Lei che quota ha della NIE a questo punto? Il 14% circa, 13,9, una cosa del genere, perché ci sono stati aumenti di capitale. Sì, da quanto tempo ha questa quota? Perché la notizia che è stata data qualche giorno fa, poco prima della fine dell'anno, dal Fatto Quotidiano, credo il 29 dicembre è uscito un articolo su questo, ma lei da quanto tempo deteneva questa quota? Ah, da poco, da novembre, ma comunque è un atto pubblico, sì, quindi certo, voglio dire, lo scoop non lo vedo perché è un atto pubblico. Appunto, ma e quindi all'Unità sapevano questa cosa? Ma certo, io parlavo con l'azionista di maggioranza, perché tutto questo è nato da un incontro con l'azionista di maggioranza e con l'amministratore, abbiamo cominciato a parlare dell'Unità, della voglia di rilanciarlo, dei nuovi progetti e anche dei debiti, voglio dire, dell'Unità, e quindi mi hanno chiesto, un po' sono stata io che mi sono interessata più approfonditamente della cosa, e quindi sono entrata in questo azionariato. Cioè gliel'hanno chiesto addirittura di... No, non è che me l'hanno chiesto, assolutamente, forse mi sono spiegata male. Molte volte si fanno le battute, ma perché non entri anche tu, ma forse più battute che altro. Ma questo chi gliel'avrebbe detto? È stato il mio interesse, ecco, sulla questione. Sì. E perché appunto un suo interesse nei confronti dell'Unità, un giornale che appunto ha anche un problema di debiti ereditato dal passato, un giornale che politicamente dovrebbe essere, è lontano da lei, che è stata senatrice di Forza Italia? Ma io direi che... Cioè, curiosa questa cosa, no? Non è una cosa tanto normale, o no? No, secondo me è normalissima. Uno, perché io non mi interesso più di politica da 7 anni, e tanto più io non mi sono voluta ricandidare, no? Perché ritenevo ormai concluso il mio percorso politico, in quanto non c'era più la spinta propulsiva della società civile che prima c'era stata in Forza Italia. In che anno lei è uscita da Forza Italia? 2006. Sì, quindi... Poi mi convincevano i piani dell'azionista di maggioranza per il rilancio del giornale, e rispetto alla novità di Renzi pensavo che anche la Unità dovesse dare dei segnali di maggior ruolo sul mercato, anticipando le battaglie centrali del partito. Cioè? Beh, cioè lei, a lei Renzi piace politicamente? No, penso che Renzi, che appare proiettato verso la modernità, serve moltissimo inglobare quello che ha rappresentato l'Unità del tempo, nel tempo, no? Sì. D'altronde il futuro si costruisce solo se poggia su un solido ed importante passato, quale le lotte dei lavoratori, di cui l'Unità era stata una bandiera. Questa è la storia del paese, che non è né di destra né di sinistra, penso, no? Mm. Però lei, tra i suoi clienti, ha avuto anche Walter Lavitola, che è noto, sì, per essere, è notissimo ormai, per essere legato a Silvio Berlusconi, anche se coinvolto in un processo che insomma non li vede dalla stessa parte, ma il faccendiere amico di Berlusconi. E quindi è facile fare 2 più 2, ma come? Sarebbe come dire che in qualche modo Berlusconi mette un piede dentro l'Unità. No, questa assioma non l'ho capita, perché io ho avuto il mio rapporto con la Vitola, era di natura professionale, sulla cui correttezza e linearità anche sulle questioni che io ho trattato la stessa magistratura non ha mai sollevato il minimo dubbio, quindi non capisco come ci possa essere da un rapporto fra avvocato cliente arrivare all'assioma che il cliente entri negli affari dell'avvocato. Non riesco a capirlo, penso che sia un assioma totalmente fuori dalla normalità. Ma mettiamolo così, un assioma un po' malizioso, ma... ma no, falso, che... non direi no, malizioso, dal suo punto di vista è troppo buono a dire malizioso. No, ho capito, lei dice falso, io dico le giustifico perché è stata fatta questa supposizione. No, non è che, ripeto, resta comunque quantomeno una coincidenza strana che un ex senatrice di Forza Italia entra nel giornale, non in un giornale qualunque, ma nel giornale del nemico storico di Forza Italia, cioè il PD. Lei però ha... ai giornalisti dell'Unità che adesso insomma stanno discutendo su questa vicenda, adesso che è venuta alla luce, cosa vuol dire qualcosa? Ma io credo, voglio dire che c'è stato nei miei confronti un pregiudizio che non capisco, anche perché io volevo contribuire attraverso il mio ingresso anche alla democrazia. Ogni giornale che muore o che comunque è in difficoltà è d'altronde una ferita alla democrazia. Quindi io sono disponibile a parlare con tutti i giornalisti dell'Unità, non voglio assolutamente cambiare la linea editoriale, d'altronde con il mio misero 14% non avevo certo questo interesse, c'è un azionista di maggioranza, c'è il direttore, c'è il comitato di redazione che fanno la linea editoriale, non certo un azionista di minoranza. Mm. Ecco. Ma lei cosa si aspetta, per esempio, da qui a un anno, dopo un anno dall'ingresso nell'azionariato dell'Unità, cosa si aspetta? Cioè di guadagnarci qualcosa, di poter dire comunque la sua all'interno di questo giornale che, come dice lei, è importante per la democrazia? Ma certo, perché perché ognuno che fa un investimento poi pensa di guadagnarci. Io penso che il piano di rilancio che ha preparato l'amministratore e l'azionista di maggioranza sia un buon piano di rilancio. È questo che mi ha convinto soprattutto ad entrare, insieme alla volontà, come le dicevo, di salvare un giornale importante per la storia dell'Italia, insomma. Quindi insomma, anche un guadagno economico, però, prima o poi, lei dice. Ma spero certamente di sì, perché è un giornale che ha un marchio importante, che ha una storia importante, che può rilanciarsi in maniera, direi, anche abbastanza forte, in un mercato sicuramente difficile come quello dell'editoria, ma che comunque, se uno ha un'idea in più ed ha una forza in più, riesce anche di fronte agli altri a primeggiare. Io spero che l'Unità tutto questo riesca a farlo. E allora auguri a Maria. Grazie. Claudia Ioannucci per essere stata con noi. Il mio cognome. Ioannucci. Grazie, auguri, in bocca al lupo per la sua avventura, diciamo così, imprenditoriale all'interno non dell'Unità. Non è un'avventura. Quando si parla di impresa si usa spesso questa avventura imprenditoriale. È bello, no? Non è un'avventura nel senso che va all'avventura, ma che insomma è un'avventura ogni volta che uno fa un'impresa, no? O no? Non saranno tutte rose e fiori? Non è un'avventura la mia, è molto di più, una partecipazione sentita. Ma lei vuol crescere nell'azionariato, tra l'altro, questo non gliel'ho chiesto, vorrebbe un po' crescere anche, poter dire un po' di più lassù. Nell'azionariato, ma io penso che tutto questo bisogna vederlo come si sviluppa. E, vede, un mercato libero fa emergere opinioni alternative, la democrazia delle idee, quindi riuscire a partecipare a tutto questo per me sarebbe molto importante. Vede, io non ho figli, il mio rapporto è col mio studio, il mio lavoro. Riuscire a fare in modo che anche attraverso questa, come dice lei, entrata nell'Unità, si possa raggiungere qualcosa di democratico per tutti, ossia le idee sbagliate non sono solo da una parte, sono da tutte e due, e quelle giuste anche. Quindi se noi con l'Unità riusciamo a creare un giornale che guarda al futuro, abbiamo fatto bingo. Quindi che guarda al futuro, però un po' meno rivolto al passato, cioè un po' meno il giornale fondato da Antonio Gramsci, un po' più che cosa? No, con le solide basi del passato, sì. Perché le solide basi del passato sono importanti, non si costruisce niente se non ci sono solide basi. Comunque, insomma, non esclude di poter crescere in futuro? Non lo so, dipende. Però non lo esclude a priori, cioè non è che dice mi accontento di questo. Vediamo, se va bene potremmo anche potrei investire ancora di più. Perché certo, no? Certo, se le imprese vanno bene, perché uno non deve investire di più. Va bene, grazie, ancora auguri allora. Grazie anche a voi, arrivederci. Sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 0024 e vai con i vostri buoni propositi di qua una decina di minuti. Fabris da Ferrara, buonasera. Ma naturalmente anche a commentare quello che avete sentito sin qua, Fabris. Buonasera. Buonasera. Buonasera, io la stimo moltissimo e vi seguo tutti i giorni, avete degli ottimi collaboratori giovani. Ascolti, niente. Chi io sarebbero volevo questi collaboratori giovani? Guardi, non si creda che qua l'età media sia così giovane, eh. Abbiamo giovane, gente anche di una certa esperienza. Giovane o non giovane, sono bravi. Sono bravi, va bene Fabris, sì. Ascolti, niente, io sarò breve, io sono francese, ho la nazionalità francese, vivo in Italia da tanti anni, oramai sono 35 anni che vivo qui. Sì? Ho tre figli a cui ho trasmesso, sono nati qui, sono italiani, ho trasmesso la nazionalità francese. Niente, volevo riferirmi al discorso di Renzi che pensa alle unioni civili e c'è una polemica sulla famiglia, tutto quanto. Io non sento nessuno parlare di reddito di cittadinanza, ho tanti amici che lavorano alla Caritas e mi descrivono storie allucinanti in continuo aumento di povertà. Oramai io penso che siamo arrivati a 30 milioni di persone a rischio povertà. Sì, però non mi dica anche lei che bisogna prima fare il reddito di cittadinanza e poi i diritti civili, perché il reddito di cittadinanza costa un sacco di soldi, i diritti civili non costano niente, e quindi sono due cose che non sono in alternativa, sono due cose diverse, basta. Il reddito di cittadinanza si poteva ricavare dai 98 miliardi di euro che hanno abbonato alle lobby delle slot machine, e questo lei lo sa benissimo e la rispetto anche perché lei è bravissimo e ne ha parlato. Sì, se fosse per me assolutamente. E Antonio Razzi in Francia non sarebbe mai stato eletto, l'avrebbero preso a calci, non sarebbe neanche entrato in Parlamento. Purtroppo in Italia si sa benissimo che tutto è possibile. Pensi che lo hanno lasciato entrare in Corea del Nord, dove invece per altre cose sono abbastanza seri e rigorosi, e invece... Fabri, se voleva aggiungere qualcos'altro, non so, il suo buon proposito per l'anno prossimo, ce l'ha? Guardi, io mi piace essere ottimista, io sono uno dei pochi fortunati che ha ancora un lavoro, sì. E però mi giro attorno, io lavoro in un'azienda chimica che fa vernici, era italiana, è stata venduta anche questa, è passata a una multinazionale americana, sì. Vedo un paese proprio in svendita e lei lo sa benissimo perché ne parla nel quotidiano. Mi piacerebbe essere ottimista, vorrei delle cose compiute da questa gente che è ancora lì in Parlamento a parlare del nulla, e lei si ricorda benissimo di Pertini, se fosse ancora al mondo li avrebbe presi tutti a calci e li avrebbe buttati fuori dal Parlamento. Ma lei mi sta citando un pezzettino per un pezzettino il discorso di Grillo di fine anno, che è andata a ripescare Pertini. Guardi, io non sono del 5 Stelle assolutamente. No, però questo perché... riferimento a Pertini mi sorprende, no, perché... Sa perché? Perché io ero giovane, sì. E avevo 11 anni all'epoca. Vabbè, ma allora questa è nostalgia, era giovane quindi era tutto sì, più bello. Sì, vabbè. È stato l'ultimo e l'unico veramente presidente di questa nazione. Va bene Fabris, grazie, buona serata, auguri anche a lei. Eugenio da Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Senta, io riferito ad Alfano, non ho ben capito cosa voglia dire viene prima la famiglia, viene prima... di che cosa, insomma, poi ha detto bene Scalfarotto, non è che viene prima o viene dopo, si fa assieme, tanto viene prima la famiglia senza dire che cosa vuole fare della famiglia. Ma poi a proposito, proprio invece parlando di una cosa tipica delle famiglie, cioè i figli, io vorrei far notare che in questo paese ci sono molte coppie omosessuali che hanno dei figli, coppie che sono diventate omosessuali o magari che hanno avuto l'inseminazione artificiale in altri paesi, hanno qua dei bambini e questi bambini hanno riconosciuto un solo genitore invece che due, quindi ci sono problemi ad andarli a prendere a scuola, problemi di tipo legale banalissimi, ecco, che per fortuna un colpo a cerchio alla botte generalmente si riesce a sistemare, ma insomma sì. È una questione che invece avrebbe una certa rilevanza e tra l'altro mi risulta che il numero sia importante, insomma si parla, non vorrei dire una fesseria, ma credo di decine di migliaia. Di tanta gente, no ma vedi hai ragione, io si figuri, noi durante il programma, nella versione weekend si può fare, ne abbiamo parlato mille volte, io il motto è più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno, assolutamente, non si capisce cosa toglie, infatti prova ne sia che nei paesi pragmatici e a democrazia avanzata piano piano ci si sta arrivando da tutte le parti, laddove invece deve prevalere una idea di difesa della famiglia, presunta difesa della famiglia da questa presunta aggressione, allora naturalmente il discorso è diverso. Dove prevale il pragmatismo si approvano questi diritti che non tolgono niente a tutti gli altri, e questo è quello che prima o poi si farà anche in Italia, si sta facendo e si farà sicuramente. Ora arriveranno le ondate di telefonate invece dei familisti. Eugenio, voleva aggiungere qualcos'altro? Volevo dire che Alfano non sapeva cosa dire, come tante altre volte, per cui ha detto la prima cosa che gli è passata per la mente, d'altra parte, non so, probabilmente stava giocando anche stavolta. Parla al suo elettorato di riferimento e fa quel tipo di dichiarazioni. Grazie Eugenio. Auguri anche a lei, andiamo, dove andiamo? Vittorio da Brescia, buonasera. Sì, buonasera Alessio, complimenti per la sua trasmissione, anche se sono un fan di Cruciani e Parenzo, anche la sua trasmissione mi piace un sacco. Ecco. Che bello, in questo così clima, diciamo, di tutti amici. No, sto scherzando Vittorio. Sì? Allora, io sono un ragazzo ucraino, ho fatto l'università qua, mi sono laureato 4-5 mesi fa e il mio proposito per quest'anno... Sì, aspetti che me lo segno. Proposito... scusa? No, no, che me lo segno perché sennò poi ce lo dimentichiamo. Il buon proposito di Vittorio è? Scusi? No, e qual è il buon proposito, Vittorio? Sì, sì, ok, ecco. Più che un proposito è un augurio di trovare finalmente un lavoro, anche perché in questi mesi ho mandato centinaia di curriculum, pochissime risposte, colloquio effettivo ancora meno. Direi che il suo auspicio insomma è quello di moltissimi. Lei in che cosa si è laureato, Vittorio? Mi sono laureato in economia, ed anche per questo che seguo la vostra radio sempre, perché sì, mi permette di restare sempre aggiornato sia sui fatti economici. E lei che cosa si è specializzata in qualcosa all'interno dell'economia? Sì, beh, ho fatto proprio economia e finanza. E questo spiega ancora una volta perché seguo tantissimo la vostra radio, che è una radio che per me è la migliore per quanto mi riguarda, ecco. Vabbè, conoscerà due o tre lingue sicuramente, questo è un vantaggio. Sì, sì, sì, sì, beh, quello sì, però sa che al giorno d'oggi ho anche amici che parlano anche 5, 6, 7, ma e comunque continuano a trovare lavori scarsamente pagati, ma neanche lavori, stage proprio con dei contratti che sì, contratti strani lì che non vengono pagati niente e così via, quindi comunque la situazione è difficile e il mio augurio è quello che qualcosa migliori e cambi anche per noi giovani. In bocca al lupo, Vittorio, grazie per averci chiamato. Andiamo a Elena che chiama dalla provincia di Monza e Brianza. Buonasera, sono Elena. Buonasera. Sì. Telefonavo semplicemente per esternare il mio buon proposito per il 2014, quello di riuscire ad arrivare al 2015, nel senso di riuscire a pagare le bollette, riuscire a pagare il mutuo e riuscire a conservare il posto di lavoro. Quindi so di avere un profilo molto basso, ma di questi tempi mi accorgo che siamo veramente in tanti. Mm-hmm. Ad avere questo profilo basso e a sperare, anche se la speranza diventa sempre più un'illusione, che qualcuno nel mondo della politica si accorga veramente di come sta la gente, e la gente vuol dire le persone che comunque hanno un lavoro, perché io sono, cioè, ho una famiglia monoreddito, nel senso che lavoro io, ho due ragazze, e le assicuro che in questi ultimi tre anni riuscire ad arrivare veramente al 27, alla fine del mese, è diventato assolutamente drammatico. Io alle volte l'ultima settimana non faccio la spesa, per cui si va dalla nonna, si va dalla zia, si va, e sono un dipendente pubblico e quindi ho tra virgolette la garanzia di avere il posto di lavoro. Beh, quindi diciamo, da questo punto di vista può tirare un sospiro di sollievo, glielo volevo chiedere, cioè lei non ha motivo per ritenere che quest'anno dal punto di vista economico possa andare peggio, insomma è assunta e ha una garanzia da questo punto di vista. Mi domando come il CDA di Mestre possa dire che il carico in termini di tasse si è diminuito, quando invece io ho visto più che raddoppiato quello che era la TARSU, che adesso è diventata la TARES. Quando, forse è la media del pollo di Trilussa, no? Cioè la famosa vecchia storia per cui mediamente c'è stata una diminuzione, tutta ancora forse da verificare, da sperimentare nei prossimi mesi, però poi c'è chi è andata bene, c'è chi è andata peggio forse. Esattamente. Elena, esattamente. Grazie anche a lei, auguri, in bocca al lupo. Grazie mille, complimenti per la trasmissione che è interessantissima. Grazie ancora, grazie ancora. Andiamo a Domenico che ci chiama da Roma. Sì, buonasera, approfitto per fare gli auguri a tutti di buon anno. No, ero rimasto molto colpito dall'intervento precedente che hanno fatto, che facevano su Equitalia, e comunque anche l'ultimo intervento che ho sentito adesso. Mi è venuta in mente un'analogia che però diciamo è quella... è la cosa che un po' mi spaventa, nel senso che nel 2010 la rivolta famosa in Tunisia della primavera araba iniziò con un gesto simile, cioè il ragazzo 26enne ai quali la polizia aveva sequestrato la bilancia, diciamo, con la quale pesava la frutta che vendeva, diciamo così, 2 metri quadri nel banchetto al mercato, che era tutto quello che aveva, gliel'aveva sequestrato per una cartella non pagata, e un'ora dopo questo sequestro, diciamo arbitrario, avendogli tolto il mezzo di sostentamento, l'unico modo con cui lui poteva guadagnarsi da vivere, prendersi da fuoco davanti al municipio. E erano cartelle relative a tributi locali non pagati. Vabbè, che, cioè, lei ci sta dicendo che, la, che pagare le tasse è una roba che, no, che scalda un po' da tutte le parti nel mondo, questo sì. Non questo, mi riferivo al fatto che, diciamo, anche in quel caso, cioè prima si sentiva nell'intervento, si giudicava, diciamo, non adeguato l'ulteriore, diciamo, allungamento del periodo di radiazione. Sì. Era valutato non adeguato se questo non era comunque, se la persona non era in grado, per tutta una serie di motivi oggettivi economici, di poter far fronte anche a una radiazione più lunga. Sì. Il fatto che questi episodi, cioè, abbiano in comune la nostra economia, abbia in comune questi episodi con realtà come quella della Tunisia, è la cosa che mi fa pensare. Non era riferito al... Va bene, ho capito, Domenico. Secondo me c'entra poco la Tunisia, però è la mia opinione, e invece la sua l'ha appena detta. Adesso invece vogliamo fare un giochino, un bilancino, diciamo così, di fine 2013 dal punto di vista delle promesse e delle affermazioni dei politici italiani. E lo facciamo insieme ad Amerigo Lombardi di pagellapolitica.it. Buonasera. Buonasera. Pagellapolitica.it è un sito, è un progetto, come lo vogliamo definire? Sì, è un progetto che fa riferimento al sito. E di cosa vi occupate? Pagellapolitica.it. Sì. Quello che facciamo è monitorare quotidianamente il dibattito politico. Quante affermazioni avete monitorato? Perché ci sono tutte le statistiche. Così siamo nati a ottobre 2012, abbiamo monitorato ad ora circa 60.000 dichiarazioni. Sì. E ne abbiamo verificate 1.000, perché tra quelle che raccogliamo selezioniamo solo quelle che si riferiscono a numeri o fatti, quindi che sono verificabili attraverso delle fonti accreditati, quindi facciamo un'analisi, inseriamo sempre il link alla fonte in modo che poi il lettore possa andarsi a vedere la fonte, a spulciarsela. Certo, e questa è la cosa importante. Può anche suggerirci, prego. No, dico, questa è la cosa importante, che poi normalmente a molti sembra non interessare più di tanto, no? Passato il momento del dibattito politico in cui o del talk show serale in televisione vengono dette diverse cose, poi vai a vedere quello che è stato detto, se è vero o se è falso. Voi fate proprio questo, per amore della precisione, per amore del vero. E, quello che ci ha ispirato. Sì, quando andate a verificare con le vostre fonti, che possono essere dati dell'Istat, dell'Ocse, del Censis o quant'altro, la domanda è questa: in genere si riesce a dare una risposta unica a queste domande, oppure ci si trova di fronte a delle ambiguità, per cui in realtà dare una patente di giustizia o no alle affermazioni non è sempre facile, o è facile? Non è sempre facilissimo, devo dire. Però noi quello che ci salva in realtà è che noi proponiamo la nostra analisi secondo le fonti che riteniamo accreditate, secondo quei dati che noi riteniamo accreditati, e poi apriamo, se vogliamo, una peer review universale, una revisione dei nostri lettori che magari ci correggono se sbagliamo, ci suggeriscono una nuova visione dell'analisi, della spiegazione se serve, quindi siamo prontissimi a modificare. Però ci sono dei casi in cui casi in cui è più facile rendersi conto che un'affermazione, una dichiarazione di un politico è una panzana, perché voi classificate così anche con queste espressioni. Qual è la gradazione, ce la vuoi ricordare? Andiamo dal vero, che è chiaramente una dichiarazione pulita, senza alcuna sbavatura, fino alla panzana pazzesca, che è il giudizio minimo, passando poi per altri tre gradi intermedi, c'era quasi il ni e il pinocchio andante. Ecco, per quanto riguarda le panzane o le panzane pazzesche, oggi il Corriere ne riporta tre, che sono state, diciamo così, sottoposte anche a giudizio appunto dei vostri lettori, eccetera, eccetera, e queste sì sono delle panzane in maniera indubitabile. Cioè, per esempio, partiamo da quella di Grillo. Sì, un attimo come siamo arrivati alla panzana dell'anno. E però l'abbiamo selezionato tra le panzane più lette dell'anno, quelle che noi riteniamo più rilevanti rispetto al dibattito politico, e l'abbiamo sottoposta all'attenzione dei nostri lettori, che hanno scelto quale le ha fatti magari più sorridere o più indignare o più incavolare, se vogliamo. E quindi il risultato è stato che con il 51% una panzana di Grillo è stata quella che ha vinto il sondaggio. Sì. Grillo durante lo tsunami tour a Siena aveva sostenuto che per argomentare che la crescita non dia posti di lavoro ma li toglie, ha sostenuto che la Germania negli ultimi 20 anni ha raddoppiato la produzione di qualsiasi cosa e nel frattempo i posti di lavoro sono diminuiti del 15%. Cioè lui aveva detto che la Germania ha raddoppiato la produzione ma ha diminuito l'occupazione, per dimostrare che, tesi cara al Movimento 5 Stelle a Grillo, che non è la crescita che crea l'occupazione. Aveva detto questa cosa qua. L'ha fatta nel momento in cui proponeva la decrescita fiscale. La famosissima decrescita. E voi avete verificato e com'è andata? Che dati Eurostat e Ocse alla mano, faccio vedere che la produzione industriale in Germania negli ultimi 20 anni è aumentata di circa il 20%, ma non è raddoppiata chiaramente. E anche al contrario di quanto sostiene Grillo, l'occupazione è aumentata nell'ultimo ventennio di circa di più del 10%, quindi una pandora pazzesca. Quindi l'occupazione cresce insieme alla crescita, almeno in Germania, quindi l'affermazione di Grillo era una panzana. Un'altra che è interessante perché ha a che fare con una cosa di attualità di questi ultimi giorni, si è parlato del Salva Roma, il provvedimento che doveva concedere circa 400 milioni di euro, adesso non ricordo esattamente, a Roma, per fare fronte proprio al debito. C'era invece un'affermazione di Alemanno che in campagna elettorale, che cosa aveva detto l'ex sindaco di Roma? Aveva detto che durante la campagna elettorale per il Campirolli aveva sostenuto che se Roma non avesse alcun debito, e la panzana prima di tutto bisogna dire che esistono due gestioni finanziarie del Comune di Roma. Da un lato c'è quella, c'è la gestione ordinaria è quella della gestione commissariale. Sì? Quindi stai andando a scorrere, perché poi non è facile, i dati, perché naturalmente avessimo qua Alemanno direbbe no, ferma, perché il commissario, la cosa, cioè non sono cose forse facili, univoche, io l'ho detto in premessa, però andando all'osso qua di questo il giudizio politico poi sta sia al politico da una parte, sì, e al lettore poi. Noi però su questa cosa del debito, cosa avete verificato, Amerigo? Come? Su questa cosa del debito di Roma, cosa avete verificato? No, abbiamo verificato che c'era, che il debito di Roma non è assolutamente pari a zero. E quindi insomma era una panzana pazzesca anche questa. Sì, ce ne sono altre che ci vuoi ricordare? Per esempio c'è un'altra che riguarda Berlusconi. La terza, tornando al sondaggio che abbiamo lanciato, sì, abbiamo chiuso a fine anno, la terza sul podio sarà quella di Berlusconi, che sostenendo che il governo non influisca sulla riduzione o l'aumento dello spread, aveva sostenuto che lo spread, cioè che il costo degli interessi era più basso col suo governo rispetto a quello pagato durante il governo tecnico, quello di Monti. Sì. E la panzana si è verificata perché Berlusconi, riprendendo in modo abbastanza approssimativo un'analisi di Brunetta, prima di tutto dimentica di riferirsi ai rendimenti medi e soli BTP, quindi decennali di emissione, parla di costo degli interessi. Invece avrebbe dovuto riferirsi a un dato medio, quindi. Vabbè, comunque chi volesse divertirsi sul sito va su pagellapolitica.it e vede tutte queste cose, le può scandagliare tranquillamente e farsi un'opinione. Ci dici però una promessa, una panzana anche di uno del PD, così facciamo un po' di par condicio, perché sennò sembra che abbiamo preso di mira solo quegli altri. Ah no, tra le panzane più interessanti, sì? Ce ne sono anche da parte di tutti gli schieramenti. Sì. Mi viene quella di Renzi, che ha partecipato anche al sondaggio, in cui lui sosteneva che il livello di comprensione degli studenti italiani sia tra i più bassi. Invece no, l'Italia non è nei primi posti, però secondo il report PISA, sì, su 65 paesi si ferma a metà classifica, però non è l'ultimissimo. Ah, vabbè, insomma, così abbiamo dato una botta anche a Renzi. Va bene, c'era, ci stava. Grazie Amerigo Lombardi di pagellapolitica.it, auguri. 800 24 00 24, torniamo agli ascoltatori e andiamo con Edi che ci chiama da Vicenza. Buonasera. Buonasera. Prego. Allora, il mio progetto intenzione e proposito del futuro per quest'anno in corso è di continuare con maggiore sicurezza nel non utilizzare gli animali nella mia vita, cioè di continuare ovviamente ad escluderli dal cibo, dal vestire. Che lei è vegetariana? Lei è vegetariana? Sì, un po' di più, non mangio neanche, tranne raramente carne, formaggi e uova. Mm-hmm. Ma cioè di continuare a migliorare, a contribuire nella mia piccola parte ad un rapporto migliore con gli animali di cui pochi purtroppo ultimamente parlano, perché sembra che ci siano sempre delle cose più importanti, mentre io penso che se le creature vicino a noi soffrono noi non potremo mai stare bene, e quindi continuare anche nella divulgazione, nel volontariato, e accanto a questo che è un parallelo è di riuscire a rimanere aperta, a rimanere con un sorriso, perché chi è molto sensibile, e io lo vedo quotidianamente, corre veramente il rischio di appesantirsi, di intristirsi, e allora è veramente finita. Quindi io vorrei veramente continuare, perché ogni anno è un percorso, è un gradino in più verso nello scalare questa montagna. Sì. Eddie, una cosa le voglio chiedere, però, a parte la montagna, cosa direbbe a Caterina, la ragazza che ha scritto su Facebook che è vegetariana anche lei, che lei si è curata la sua malattia grazie ai test sugli animali? Allora, lei ovviamente ha espresso la sua opinione, che è giusto, anche perché lei è ammalata, sì, eccetera. Io però non credo agli effetti positivi della vivisezione, non ci credo da tanti anni. Ma cosa vuol dire non ci crede? In che senso? Non credo che sia un metodo valido per trovare dei farmaci. Ma lei non lo crede, però cioè, di fatto, se lei ha preso nell'ultima settimana una medicina qualunque, è stata testata su quegli animali che dicevo io, quindi non è, sì, è da credere o no, è così. Sì, uno può essere contrario, penso, e allora per coerenza non dovrebbe curarsi con quelle medicine. Sì, hai ragione, certo. Sì, infatti io vorrei essere coerente al 100%. Già comincio, però non sono al 100%, me ne rendo conto. Io non credo che sia un sistema valido, oppure che sia un sistema che può essere superato con tantissimi altri metodi, perché ogni tanto ho partecipato a convegni, ho letto dei libri. E poi non credo che un problema provocato all'animale possa rispecchiare lo stesso problema che l'uomo viene per una infinite ragioni anche di origine psicosomatica. E poi un'altra cosa, io non penso che la sofferenza che tutte le creature del mondo, umani e non umani, quindi animali in senso stretto, gettano nel mondo, possa far bene al mondo stesso. Cioè questa qua è una cosa che non la trovo utile né dal punto di vista scientifico, anche se ovviamente dico tu sei un medico, cosa ne capisci? Sì, però se parliamo di cure, per esempio, non parliamo di cure per gli esseri umani, parliamo di qualcosa di positivo, credo, perché a meno che non le interessino nemmeno le cure, però credo che le cure la interessino, cioè se lei sta male si cura o no? Sì, però ci sono tanti modi di curarsi. Sì, mi curo, grazie, sì, a Dio. Sì, no, adesso io sto dando per scontato che lei utilizzi delle medicine per curarsi, se poi si cura in un altro modo va naturali, bene. Naturali, medicine naturali, sì, sì, ne uso. Ma anche però medicine non naturali, medicine di moment o altre cose per curarsi il mal di tendo, lei non le usa? No, mi è capitato di usare, se fossi coerente, come dicevo prima, ecco, al 100%. Allora magari buon proposito per l'anno prossimo è essere coerente, non usarle più, sì, se ha questo provare, punto di vista. Sì. Oppure di avere un punto di vista meglio, un po' più. Vivere meglio. Come? Devo anche, ed è il discorso dell'altro che è parallelo, sì, più io cerco di stare meglio, e certo non è facile, meno ho la possibilità, ad esempio, che mi venga il mal di testa, per dire una riduzione, una cosa così, un esempio. Ma per esempio per lei, no? Cioè, un topo è uguale a un essere umano, nella sua visione, diciamo, amica degli animali? Non sono uguali, però io in quanto umano, e quindi sì, con abilità e intelligenza superiore, adesso parliamo del topo, dovrei anche prendermi cura del topo. Oppure se devo per forza ucciderlo, perché mi rendo conto, se uno ha la cantina, che ne so, invasa dai topi o altro, io penso che se a volte si deve arrivare all'uccisione dell'animale, che sono casi rarissimi, non devo farlo soffrire. Va bene, no, questo quando sì, questo sì. A chi mangia la carne, un esempio, ma sì. come per tantissimi altri esempi, è terribile la sofferenza che prova l'animale e ci lascia come eredità nel mondo. E queste, guardi, sono idee che io ho trovato anche in pensatori americani di fine 800, che mi sono anche stupita di avere delle... Sì, sì, no, va bene, ma questo ecco. È chiaro. Adesso volevo chiarire alcuni aspetti. Grazie, Edi, grazie. Grazie. Buona serata. Perché, come sapete, c'è stato un caso che recentemente ci ha di nuovo riaperto a questo dibattito. Insomma, il buon proposito di Edi, però ce lo segniamo. Far soffrire di meno gli animali, usare di meno gli animali per la sua vita, e tutte le volte che non è necessario sono d'accordissimo con lei. Per esempio, per quanto riguarda mangiare, anch'io potrei mettere fra i buoni propositi diventare vegetariano o qualcosa del genere, perché mi sembra di aver capito, nella mia abissi di ignoranza, che non è fondamentale mangiare la carne, no, se ne può fare a meno. Allora quello potrebbe essere un esempio. Come avrete capito, sulle medicine la penso un po' diversamente. 800 24 00 24, Virgilio da Milano, buonasera. Buonasera e buon anno innanzitutto. Senta, io volevo riprendere un po' il discorso sulle leggi che non partono per le coppie di fatto. Sì. Io sono etero e sono sposato da 32 anni e credo anche nel mio piccolo di essere credente, perciò voglio dire. Ecco, io credo che questo sia dovuto proprio a un fatto intrinseco nella mentalità italiana. Noi diciamo di essere uno Stato laico, ma in assoluto non lo siamo. Abbiamo questa ingerenza, questa invadenza a piene mani dello Stato del Vaticano, no, della Chiesa, che oltretutto è uno Stato dentro il nostro Stato, ed è sempre in mezzo alle nostre questioni, a tutto quanto, e tanto è vero che lo sta a testimoniare anche i patti lateranensi, che dovrebbero secondo me essere aboliti. Se è vero che l'Italia deve accettare l'immigrazione, è anche sì vero che nelle scuole si abbia la libertà di poter insegnare il buddismo piuttosto che la religione, piuttosto che cristiana, piuttosto che altre religioni. E questa sì. È un'invadenza che il Vaticano applica costantemente, tanto è vero che io credo che... Anche questo Vaticano, secondo lei, anche il Vaticano adesso con Papa Francesco, probabilmente Papa Francesco è quello che ha detto: chi sono io per giudicare, per esempio, un omosessuale? Infatti, io sto dicendo questo, che probabilmente volevo arrivare anche a questo, ovviamente. Ma quello che mi fa specie più che altro è anche l'informazione italiana, che io per l'amor del cielo, in buona fede la dico questa cosa, sembra legata mani e piedi a un certo tipo di mancanza di informazione o di apertura di ragionamenti su questa ingerenza della Chiesa nella nostra politica. Cioè, in America l'informazione, i giornalisti sono più liberi da questo punto di vista. Noi invece no, noi ci atteniamo al fatto che non prendiamo forse neanche in considerazione che la Chiesa è così invadente che non se ne parla neanche. Ma guardi, non lo so, per quanto riguarda adesso non vedo cosa c'entri la stampa, i giornalisti, l'informazione su questo. Lo dico sinceramente, perché mi sembra che invece su questa questione dei diritti degli omosessuali, per esempio delle coppie omosessuali, non mi sembra che la stampa sia contraria pregiudizialmente. I giornali, che per l'amor del cielo non venderanno milioni di copie, però alcune centinaia di migliaia di copie le vendono. Quindi non ho capito perché lei ci ha messo in mezzo anche l'informazione. No, non dite mai che la Chiesa è come si dice, oscura questo lato qui, che noi siamo oppressi da questa invadenza della Chiesa nelle nostre leggi, perché poi dopo in contraddizione diciamo che siamo uno Stato laico, che non è assolutamente vero. Ma io cerchiamo di capirci, non sto dando la colpa a voi, non cado nel qualunquismo nel dire è colpa dei giornalisti a prescindere, no, però vorrei, mi piacerebbe che chi ha in mano il potere, voi avete in mano un certo tipo di potere, svegliaste un attimo le menti, hanno voglia di recepire questo discorso. Cioè la Chiesa è invadente. Va bene, io spero va che bene. Adesso con Papa Francesco sì. Possa cambiare qualcosa. Grazie Virgilio, spero. Grazie, auguri, grazie anche a lei, buona grazie. Serata, facciamo i titoli della 7. Effetto Renzi sul governo Letta e sulla maggioranza di fronte alle proposte del segretario PD, il vice premier Alfano dà voce ai mal di pancia moderati, non ci si occupi delle unioni civili se prima non pensiamo alle famiglie. Il nuovo centrodestra frena anche sulle modifiche alla Bossi-Fini e i renziani replicano, Alfano si renda conto che la maggioranza è cambiata, su legge elettorale, diritti civili e immigrati cercheremo i voti in Parlamento. Dalle opposizioni Forza Italia invoca l'Election Day con le europee e mette il dito nella piaga del governo dopo la lettera del segretario PD. Renzi ha dato il via all'autodistruzione dell'esecutivo. Grillo intanto attacca, la legge elettorale la discutiamo online, mai con questo Parlamento delegittimato a farlo. Poi il leader 5 Stelle torna a intimare al Quirinale, Napolitano prenda atto, sciolga le Camere e indica le elezioni anticipate. Letta, appena rientrato a Roma, cerca di mediare, ma intanto incassa un dato importante per l'economia. Lo spread tra bond tedeschi e BTP decennali oggi è sceso sotto la soglia psicologica dei 200 punti, dove non accadeva dal luglio del 2011. E torna l'ottimismo sui mercati. La borsa di Milano chiude in attivo di un punto. Il ministro dell'economia Saccomanni annuncia venti di ripresa. Ora ci sono i margini per dare più risorse alla crescita. È un sacrificio di tutti gli italiani, ha affermato Letta poco fa. E tuttavia c'è uno spettro sul futuro dell'Eurozona e del nostro paese, in particolare l'Italia non riesce a uscire dalla spirale tra prezzi bassi e consumi in caduta libera, e senza consumi non c'è ripresa. La BCE fornisce un dato che è il rovescio della medaglia, l'inflazione è ai minimi storici, 1,2% nel 2013, mai così male dal 2009, e a novembre c'è stata una contrazione di quasi il 6% nei prestiti concessi dalle banche alle imprese italiane, la media dell'Unione è di quasi il 4%. La scena brutale è la stessa, gli episodi di quotidiani diversi, fuori da un bar in provincia di Catanzaro e fuori da un fruttivendolo di Reggio Calabria. Le telecamere riprendono entrambe le sequenze di sfrontata violenza dell'andrangheta in mezzo alla strada, come nel Far West, vendette mafiose, killer, punizioni per commercianti che non pagano i debiti con la mafia, bilancio, morti nell'inferno della criminalità organizzata. Due dei killer sono stati arrestati. Una furiosa bufera di neve investe tutto il nord-est e il midwest degli Stati Uniti. Il bilancio è di 9 morti. Le temperature record di meno 20 sotto lo zero paralizzano decine di stati. Cancellate migliaia di voli, autostrade chiuse, treni a rilento. Stato d'emergenza per New York e New Jersey. Appello del neo sindaco della Grande Mela, De Blasio, e di numerosi governatori. Se potete, rimanete a casa. E riprendiamo con i vostri interventi, ancora qualche minuto, uno spicchio, una porzione di programma per commentare quello che avete sentito, ma anche per fare i vostri buoni propositi per il 2014, che poi vi verremo a stanare nel corso dell'anno nel formato consueto di Si può fare il sabato e la domenica mattina. Andiamo, dove andiamo? Enzo che chiama da Roma, buonasera. Da Roma, sì. Prego. Buonasera, auguri. Auguri. Dunque, guardi, io voglio parlare della Cina e dei paesi emergenti, del problema che rappresentano per le economie occidentali, tranne ovviamente quella tedesca, che è basata sulle grandi eccellenze tecnologiche. Oddio, però non ci faccia un trattato di relazioni commerciali. Infatti chiedo, ma per quale motivo non si sente mai nessuno parlare del problema cinese, che è il problema più importante. Ma qual è il problema cinese? È della produzione che loro fanno, il costo dei loro prodotti, che è 10 volte, 8 volte. Guardi Enzo, io non sento parlare altro che di questo, vede, mi sembra a me di sentir parlare solo di questo, della Cina. Della concorrenza con la Cina, quindi non capisco. Ma io non ne sento invece parlare, nessuno ne parla, scusi. Ma ne parlano tutti, magari non molti sanno, come dire, porre rimedio a questo problema, ma se ne parla tutte le parti. Gli americani hanno messo il dazio, ma perché non possiamo metterli pure noi? Infatti hanno avuto subito un balzo in avanti. Ma come possiamo concorrere con qualcuno che lavora 18 ore al giorno? Ma non è che lo fanno solo in Italia, lo fanno anche in Cina, e noi dobbiamo metterci al loro livello. Beh, così non è possibile, no? Va bene Enzo, grazie. D'altra parte questo però non è un tema di strettissima attualità, questo intervento poteva essere stato fatto un mese fa, un anno fa, due anni fa, o potrà essere fatto magari anche tra un anno. George da Modena, buonasera. Buonasera a voi e buon anno soprattutto. Auguri. No, io resto basito nel cul-de-sac in cui si è messo il signor Alfano. Sì. Sono uno di Forza Italia e quindi sono felice di ciò, tra virgolette. Cioè, questo praticamente si è messo a fare il cattolico spietato di centrodestra, alleandosi col PD Adesso il PD lo costringe e lo chiude in un angolo sulle questioni delle unioni gay o delle famiglie di fatto e quant'altro. Cioè, veramente, Alfano io credo che sia al capolinea, perché cioè, è colui che sostiene un governo di sinistra, altro che centro-sinistra, di sinistra, e in più è in una situazione di questo genere, cioè una roba incredibile. Quindi io non dico come la Sant'Anché, Angelino torna a casa, Angelino sì. Vatten, glielo dico anche in napoletano. Ma lei pensa che alla fine voteranno questa legge? Ma io credo che se votano, sì, se votano una roba del genere, vanno al prefisso telefonico, perché quelli del nuovo centrodestra stanno accusando noi di Forza Italia di essere dei ma lei non, scusi, però lei dà per scontato che in tutto il centrodestra italiano non ci sia nessuno favorevole alle coppie omosessuali. Non facciamo della demagogia. È lei che sta dicendo che se Alfano vota quella legge è finito. Perché non ci può essere... Il suo agglomerato partitico sì. è formato da Giovanardi, Lupi, da Formigoni, che sono scellini e cattolici di destra. Lei pensi con Questo quale... è un altro discorso, certo. È un altro discorso. Chiaramente c'è una contraddizione interna in quella formazione politica. Però su questi temi poi sappiamo che c'è anche libertà di coscienza, no? Per cui potrebbe avere una posizione aperta e laica. Certo, adesso il nuovo centrodestra, in molti esponenti di fondo, come dice lei, ha dei personaggi che sono difensori della famiglia, comunione e liberazione, come vogliamo chiamarli, cattolici tra i più integralisti, forse potremmo dire questo. Giorgio, è un problema di Alfano. Lei dice che gongolerebbe per questo, perché lei è un elettore invece di Forza Italia? No, io sono un militante di Forza Italia, sì. E vengo tra l'altro dalla tradizione cattolica, e io sono contrario. Però non ho capito una cosa, sì, ecco appunto la sua posizione, perché quella di Alfano abbiamo capito, timida e con problemi in casa. Io sono contrario all'unione gay, sì. Ma io convivo all'interno di Forza Italia con coloro invece che sono favorevoli all'unione gay, tipo Galan e altri. Non c'è sì. questa rigidità. E vabbè, potrebbe esserci le colonne. Ma perché, scusi, potrebbe esserci anche il nuovo centrodestra, magari invece un po' per di dialettica. Per l'amor di Dio, ma lei non li conosce, ma guardi. Ah, non lo so, li conosce sicuramente meglio lei di me, perché siete stati alleati, lei è un militante addirittura, quindi. Ma non esiste proprio, ma non esiste. Questi sono fuori come dei coppi, si dice a Modena. Cioè, hanno completamente sbagliato il tiro, andranno al prefisso telefonico, perché Renzi ha capito come fotterli, ha capito benissimo, li deve chiudere in un angolo su quei temi, sono morti, cioè, stavano con ma noi, guardi, però, crescevano. Scusi, c'è un'ipotesi che lei non considera, che Alfano non sostenga quelle leggi lì, come ha già detto di fare, insomma. Perfetto, e quindi vanno allora. 0,2. Ma no, non è perfetto. Che va allo zero, coerentemente non vota quelle leggi, punto e basta, e non succede non nulla, non cadrà leggi il governo. Va fuori dal governo. Ma non credo. Fuori dal governo. Ma non è detto che cada il governo su queste leggi, lo dice lei, non è affatto detto. Renzi ha detto proporrò un patto di governo, ci metto dentro anche questo, Alfano dirà la sua, faranno una sintesi, staremo a vedere. Oppure produrranno una legge moderata che non disturba nessuno, può anche darsi. Non lo so. Quei pochi elettori sì. che seguiranno Alfano, se lui voterà le leggi proposte da Renzi e dal suo vice, che abbiamo già capito che è un gay, voglio dire una persona che ha tutti i diritti di essere... Il vice di chi, scusi? Il vice di chi è un gay? Il suo vice di Renzi, adesso mi sfugge il nome, ex vicepresidente del PD. No, Scalfarotto, sì, vabbè, Scalfarotto, l'abbiamo avuto. Perfetto, sì. Benissimo. Allora, loro, se voteranno quella legge, loro, perché il loro elettorato è assolutamente contrario, loro vanno allo 0, ma per noi va benissimo che votano per Forza Italia, per cui è meglio, voglio dire. Noi no, però lui va si bene, è fatto chiudere in un angolo. Grazie Giorgio, buona serata, auguri anche a lei. Lo stesso giorno su due quotidiani italiani diversi leggiamo da una parte Uffizi chiusi a Capodanno, l'ira dei turisti in coda. Dall'altra parte leggiamo invece noi direttori di museo facciamo anche i custodi, musei minori, musei più piccoli dove però alcuni direttori insomma hanno fatto gli straordinari per tenere aperto il museo. Naturalmente non è che gli Uffizi, che sono un caso nazionale, li possiamo tenere aperti facendo lo straordinario del direttore del museo, non è questa la soluzione, ma è interessante l'argomento, cioè la questione come stiamo in questo terreno. Ne vogliamo parlare con Patrizia Rosazza, direttrice del Museo Prats di Roma, una delle direttrici appunto che ha tenuto aperto durante le feste. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Intanto il Museo Prats di Roma, che cosa esponete? Perché non è sicuramente non è uno dei musei più conosciuti. Poi a Roma c'è concorrenza, quindi. Da pochi anni. Sì. Noi presentiamo la collezione di arredi ed opere d'arte che Mario Prats riunì in oltre 60 anni di vita e di collezionismo. Sì. E la sua casa, come lui stesso aveva desiderato, è diventata un museo, dipende dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, si trova a due passi da Piazza Navona e quindi museo pubblico o privato? A ricevere tutti voi. Grazie innanzitutto. Museo pubblico o privato? È museo pubblico, chiaramente. Siamo un museo statale, siamo come una serie di sale distaccate della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Noi siamo personale statale, sì, dipendiamo dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e ci alterniamo all'interno di questo piccolo museo. Quanti visitatori avete avuto nell'ultimo anno? Abbiamo dei visitatori, noi siamo sui 5.000 visitatori, che chiaramente rispetto ai grandi numeri dei grandi musei è una cifra molto modesta, ma il nostro è un pubblico veramente di nicchia che ha un interesse molto forte. Quanto costa il biglietto? Il biglietto è gratuito, è un'altra di queste situazioni leggermente surreali che si trovano nelle pieghe della pubblica amministrazione. Ecco perché lei ha dovuto fare lo straordinario, perché col biglietto gratuito non si paga, non si incassa e quindi per andare avanti bisogna fare lo straordinario. Non si paga. Biglietto gratuito, perché è una... chi è che decide della gratuità, per esempio, del Museo Prats di Roma? Dunque, questa è una questione abbastanza complessa, un po' difficile, ma cerco di sintetizzarla. I musei dello Stato da alcuni anni danno in gestione a strutture esterne, affidano in gestione, mettono a gara situazioni come, non so, la biglietteria, il guardaroba, i bookshop, piuttosto che alcune sezioni come, non so, le visite guidate, la didattica, eccetera. E il concessionario che vince questa gara, perché presenta un'offerta che viene ritenuta la migliore, può poi in alcuni casi decidere che, per esempio, avere un bigliettaio che lavora in una situazione dove i visitatori sono appena 5.000 non è remunerativo, quindi versa una cifra forfè allo Stato e a questo punto il museo diventa gratuito. È un grosso danno per il museo, perché ovviamente quando lei vuole organizzare la sua visita in una città che non conosce, guarda un po' la situazione dei musei che può andare a visitare e dice: questo museo è gratuito, quindi non c'è nulla di interessante, già è una penalizzazione. Beh, questo non è detto però, questo non è, magari se un museo... non è detto però, sì. Diciamo che molto grosso pubblico ha una sensazione negativa, se non si paga la cosa non è interessante. Semmai sarebbe interessante, sì. Ma lei, per esempio, il suo punto di vista su questo, perché chi è che affida in gestione al concessionario questi servizi? Sono delle pubbliche gare alle quali si presentano i concessionari e poi... Ma chi le indice queste pubbliche gare? Il Ministero dei Beni Culturali. Direttamente il Ministero, cioè per il suo museo il Ministero dei Beni ha fatto un bando, qualcuno ha aderito e ha deciso che nel suo museo si entra gratis. Se lei, per esempio, non è d'accordo, mi sembra di capire. Non sono molto d'accordo, perché a parte penalizzarci sul fronte dell'immagine verso il pubblico, ci impedisce poi di avere uno dei luoghi che sono sempre di grande interesse per i visitatori, cioè un punto vendita in cui si possono trovare le nostre guide, i nostri cataloghi, ma anche degli oggetti che noi possiamo produrre che sono legati alle mappe, per esempio la nostra collezione che è piena di materiali molto interessanti. Però le faccio un esempio stupidissimo. Sì, Mario Prats è nato nella Valle d'Aosta, in Valle d'Aosta c'è ancora una famiglia Prats che produce un magnifico vino rosso, noi potremmo venderlo. per dire, potremmo avere un punto vendita se avessimo una biglietteria e qualcuno che gestisce i soldi, però potremmo avere un punto vendita. Questo perché non si fa? Dovrebbe essere cura del vostro concessionario farlo, potrebbe essere un suo interesse. Potrebbe essere un suo interesse, ma siccome noi siamo un museo con una cifra bassa di visitatori, economicamente... Ma non c'è un bookshop? Possibile. Non c'è un bookshop nel vostro museo? No, non c'è. Quindi, mi scusi, ma allora il concessionario dov'è che fa il suo guadagno? Alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Ah, dove perché ha il concessionario gestisce più musei e fa i suoi conti. In questo caso sì, gestisce la galleria e i piccoli musei che dipendono dalla galleria. Quindi diciamo, da un certo punto di vista questa situazione, lei mi sta dicendo, è come se vi togliesse un po' di sana concorrenza tra musei. E soprattutto ci toglie, diciamo, molto appeal, perché cominciamo... Però scusi un attimo, poi la faccio proseguire. Sì. Vista dal punto di vista opposto, mi piace sempre cercare le soluzioni, no? Ai problemi. Allora, penso che con questo sistema il Ministero può pianificare un po' l'offerta culturale, per esempio, di una città. Cioè, potrebbe non essere sbagliato, anche se va magari a vostro discapito, il fatto che il vostro museo sia gratuito a fronte di altre offerte culturali. Cioè, ci vuole una pianificazione. Questo l'abbiamo sentito dire mille volte, che ognuno non può far per sé, o no? Questo è un altro punto di vista sulla questione, senz'altro interessante. Diciamo che un problema di questo genere si potrebbe vedere da un punto di vista ancora diverso. Per esempio, noi siamo in questo edificio nel quale esiste il Museo Mario Prats, ma esiste anche il Museo Napoleonico, ma esiste anche la Fondazione Primoli, sì. Cioè tre enti che sono uno statale, uno comunale e un terzo è una fondazione privata, quindi una struttura comunque culturale ma di diritto privato. E se noi riuscissimo per esempio a riunire tutta una serie di gestione di situazioni, riunirle in una unica gestione, per esempio, tra privato, comune e pubblico, avremmo veramente risparmiato moltissimo sul discorso di personale che fa le stesse cose e che invece potrebbe molto più utilmente essere disposto in altre maniere, punti di vendita, servizi al pubblico. Cioè, secondo me, in una situazione particolare come quella del museo che dirigo, bisognerebbe aprirsi sia al privato da una parte con la Fondazione Primoli, sia al comune che condivide poi con noi la stessa realtà. Ma voi, per esempio, quanti dipendenti lavorano con lei nel museo? Dunque, si alternano per ogni turno due persone, però sono persone che quando non sono in turno da noi sono in turno alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Quindi diciamo, in termini di ore di lavoro, quante unità di personale avete, se è possibile fare questo conto? Abbiamo due persone a turno, quindi due la mattina, due il pomeriggio e due che fanno il turno di notte. Quindi diciamo... Le 24 ore sono coperte da sempre. Sei persone. Quindi diciamo, avete sei persone non a tempo pieno, perché queste persone lavorano con voi ma anche altrove, non lavorano sì, solo possono lì. Lavorare anche in Galleria Nazionale. Se lavorassero solo con voi, di quanto personale avreste bisogno? Tre persone? Noi abbiamo bisogno di sei persone al giorno, nelle 24 ore. Quindi sei persone. E naturalmente queste persone sono pagate dallo Stato. Perché, certo, sono custodi a tutti gli effetti, noi peschiamo nel serbatoio del personale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Però così nessuno fa mai i conti, cioè alla fine del mese ci sono sei persone che lavorano in un museo che non incassa. Detta così è orrenda. Sì. Ma come lei sa e come mi può senz'altro insegnare, questi musei non sono musei che devono produrre denaro, quello che producono è l'indotto. Sì, bisogna vedere poi è d'accordo? L'indotto fa parte sicuramente, però non si vive di solo indotto, perché poi l'indotto va nelle tasche dei ristoratori, degli albergatori e quant'altro. Ma se ci mettessero in condizione di avere un punto vendita, ci mettessero in condizione di vendere le nostre pubblicazioni, di vendere tutto quello che potremmo produrre intorno a una collezione straordinaria come la collezione di Mario Prats, noi potremmo sicuramente non essere in attivo, però arrivare a coprire un po' delle nostre spese. Senta, lei perché però ha fatto questi... credo straordinario, non so, lei poi magari come direttrice può darsi che non abbia degli orari precisi No, io ho fatto un normale cartellino e ho la mia giornata di 6-8 ore come tutto il personale della pubblica. Però nei giorni delle feste lei dice che ha lavorato... Ho lavorato di più. D'altra parte io sono anche un utente di musei, quando vado all'estero non c'è niente di peggio che arrivare in un posto che è programmato di visitare una piccola realtà museale e trovarla chiusa, per cui, ma se lei non avesse fatto nei panni delle persone che ci venivano a visitare in questi giorni, che erano a Roma, che volevano vedere questa casa museo così particolare, così straordinaria, e l'avrebbero trovata chiusa, per cui non me la sono sentita. Perché il personale era in ferie? Perché il personale in parte era in ferie, in parte doveva recuperare turni fatti durante l'anno, e in parte c'era tutta una serie, sì, diciamo in ferie, che è il termine forse più semplice, e quindi a questo punto mancavano, c'erano dei turni scoperti, e se non li copriva qualcuno il museo sarebbe rimasto chiuso, e questo, come le dico, era una cosa che assolutamente non volevo succedesse. Grazie, grazie, siamo in chiusura. Patrizia Rosazza, direttrice del Museo Prats, buona serata, auguri anche a lei. Grazie a trovare. Grazie, sicuramente. Finisce qua, Si può fare in questa versione di queste due settimane. Torneremo sabato 11 e domenica 12 gennaio. Io ringrazio di nuovo Giorgio De Luca, Alessandro Marcotulli, Pietro La Corte in regia. Ci ritroveremo con Carlo Gabardini tra una settimana circa con Si può fare. Buon tutto da Alessio Maurizi, buona serata.